La zanzara delle feste. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati, buon ultimo dell'anno, 18 e 5 minuti, 800 24 00 24, il numero verde anche questa sera per intervenire in diretta, per commentare insomma i fatti di questa giornata un po' particolare, naturalmente, perché siamo pieni di bilanci, di previsioni tra il 2012 e il 2013. 349-238-6666 per scrivere i vostri sms, siamo naturalmente attivi anche su Facebook. Alessio Maurizio in studio, Stefano Catone e Nadia Zammitti in redazione, Pietro La Corte in regia. Allora cominciamo, sarà anche questa una puntata un po' di, così, di bilanci. L'uomo di quest'anno è sicuramente Mario Monti, tutti pendono dalle sue labbra. Oggi con un altro tweet ha detto che il suo non è un partito ma un movimento civico. Insomma, vedremo che cosa ne verrà fuori da questo movimento civico. Intanto qualcuno potrebbe dire a Monti di parlare anche di qualcos'altro che l'Europa, perché io sono andato a vedere sul sito che lui ha messo su e insomma sono tutti riferimenti e soltanto all'Europa. Vabbè, staremo a vedere, cominciamo. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa. Insomma, forse non ha tutti i torti il segretario del PD Bersani quando dice a Monti: adesso che sei salito in politica devi cominciare a dire cose di politica, a parlare di temi non solo economici ma anche sociali, questioni etiche, tutta una serie di questioni. Lui dice, Monti, destra e sinistra sono una distinzione superata, noi siamo per il rinnovamento in quadro europeo. Però, ripeto, insomma, adesso forse deve dire qualcosa di più che non ancorarsi all'Europa, altrimenti la gente come fa a sceglierlo e a votarlo? Ma iniziamo a risentire qualche momento audio di questo anno trascorso, sempre con sotto la guida di Mario Monti al governo. Insomma, bene o male ha caratterizzato questo anno che ci stiamo per lasciare alle spalle. Il Fatto Quotidiano sul suo sito ha fatto una bella operazione, ha fatto un blob, ne risentiamo qualche passaggio. Credo che potremo andare più decisamente a fondo in senso buono, fino in fondo, scusate, incisivamente. Quello che succederà dopo per l'Italia, non per me perché non ci sarò, beh, spero ancora di essere vivo, ma insomma non sarò in posizione di responsabilità. Io non parlerei mai, anche se dovessi farla, di una discesa in politica, trovo orrendo questo. Anche oggi escludo di considerare una esperienza di governo, per quanto mi riguarda, che vada oltre la scadenza delle prossime elezioni. E ci avete fatto caso che all'inizio, questi erano proprio gli inizi di quest'anno, insomma all'inizio anche del governo Monti, si facevano battute sempre con stile british, si sorrideva, era, anche se eravamo nel piano della crisi e della questione dello spread, però c'era tutto un altro clima. Adesso, da quando Monti è salito in politica, è diventato serio anche lui. Io forse preferivo quell'epoca lì in cui lui col suo stile marcava anche la distanza dagli altri politici, non essendo lui un politico, da quello che stiamo vedendo adesso. A dire la verità, stiamo vedendo abbastanza poco. Le elezioni sono vicine, ma si continua a sapere poco. Non si sa quante liste ci saranno alla Camera, non si sa quali saranno i simboli. Si assiste ad un defilarsi uno a uno dei ministri che hanno fatto parte di questo governo, ma non faranno parte di questa esperienza elettorale. E Clini, Passera, la Severino, la Cancellieri, la Fornero, per ora sono tutti no. Vabbè. Adesso un altro passaggio di questo blob del Fatto Quotidiano sul suo sito, in cui Monti rende omaggio, ma in qualche passaggio un po' meno, a Berlusconi. Presentare al tavolo internazionale un paese sempre più credibile, altrimenti alla pacca sulla spalla segue il risolino e segue l'inazione. Espressioni di aperto sostegno, per cui sono molto grato, come quella di oggi del presidente Berlusconi, sono tutte cose che rasserenano. Si rischia di coprire con il leaderismo l'assenza di idee o le idee sbagliate. Sono molto riconoscente a titolo personale, ma soprattutto perché dà prova di senso di grande responsabilità verso il Paese, il suo atteggiamento di sostegno degli sforzi di questo governo, quindi in questi casi ovviamente lo ringrazio. Questa è la peggiore forma di voto di scambio, e svenda il futuro dei giovani italiani per farsi rieleggere. Stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. E ancora altri passaggi, andiamo avanti così ripercorrendo un po' quest'anno politico. La Fornero, anche lei è stata protagonista sicuramente di questi 12 mesi. Professor Fornero, lei il 12 aprile ha detto di aver ricevuto oggi i risultati dell'analisi compiuta dal lavoro tecnico e quindi di aver accertato che il numero di 65.000 è il numero esatto delle persone esodate, e ha aggiunto: l'importo finanziario è pertanto adeguato a corrispondere a tutte le esigenze senza dover ricorrere a risorse aggiuntive, che hanno reso possibile includere anche quanti successivamente introdotti da emendamenti parlamentari al decreto mille proroghe non erano compresi nella platea originariamente prevista. Questo non lo dice il qualunquista e Di Pietro, lo dice il ministro Fornero nell'esercizio delle sue funzioni. Sono usciti, l'ho detto ieri, dei documenti che sono parziali, contengono numeri parziali e non spiegati, e questo non è mai una bella cosa. Questo è il grave delle cose che noi accusiamo a lei, signor ministro, con il rispetto che diamo al suo ruolo, con il rispetto al suo essere donna, ma viva Dio, noi riteniamo che lei non merita di rappresentare il governo, non merita di rappresentare il paese per questa determinazione che ha preso, con sobrietà, per l'amore di Dio. 800 24 00 24 per intervenire in diretta anche questa sera, l'ultimo dell'anno. Ieri vi abbiamo chiesto, anche la settimana scorsa per la verità, Monti è di destra o di sinistra? Continuiamo a chiederlo, vogliamo sentire le vostre risposte, perché Monti continua a dire che destra e sinistra sono una distinzione del passato, superata. Nella sua lista confluiranno esponenti che vengono dalla destra e dalla sinistra. Però insomma il quesito secondo me è pur sempre interessante. Qualcuno ha scritto che se fossimo in un altro paese europeo Monti guiderebbe sicuramente i moderati, però si sa che per come andranno le cose è più probabile che nel nuovo Parlamento la formazione di Monti dialoghi con il Partito Democratico, e quindi c'è un po' di confusione anche su questo. Vogliamo sentire ancora un passaggio di questo blob di questo anno politico che si è concluso, sempre il ministro Fornero. I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi. Ministro, secondo lei i giovani italiani sono troppo schizzinosi quando cercano un lavoro? No, non l'ho mai detto, guardi, non l'ho mai detto. I giovani italiani, certamente. Pur avendo, io trovo, le mie due ore di respiro, sono quando io riesco ad andare nel prato, in fondo al prato, ci abbiamo insieme a mia figlia un piccolo orto, e coltiviamo qualcosa che non viene regolarmente mai, che non viene, però è fonte di grande, grandissima soddisfazione personale. In un anno, con la riforma Fornero, avete creato 350.000 esodati, persone prive di prospettive. Preferirei stare seduto sopra il ciglio di... Vabbè, insomma, la novità invece politica di queste ore sono i risultati delle elezioni primarie parlamentari, chiamatele come volete, del Partito Democratico e di SEL, dopo quelle che ha fatto anche Grillo per la selezione dei candidati, adesso anche qua. Sappiamo chi saranno i candidati delle prossime liste, e visto che si sa come vanno a finire più o meno i giochi, si sa anche quali saranno i possibili eletti, perché avere una posizione piuttosto che un'altra in lista farà la differenza. Ce l'ha fatta Rosi Bindi, ce l'ha fatta Anna Finocchiaro, tra i big del partito a cui era stata riservata, Partito Democratico, una deroga rispetto a 15 anni di esperienza parlamentare precedente. Poi non si sa perché questa deroga è stata... Beh, la Bindi è presidente del partito, la Finocchiaro capogruppo, ma per esempio Fioroni, no? Perché gli è stata data la deroga qualche giorno fa? Lo chiederemo più avanti a un esponente del PD. C'è anche un'ondata, a dire la verità, di giovani sotto i 30 anni, come Miriam Cominelli, bresciana, la più votata in Lombardia, l'avete sentita un po' in tutti i telegiornali, forse anche lei la sentiremo più avanti, anche noi gli faremo qualche domanda, 31 anni. Francesca Bonomo a Torino, terza, 28 anni, a Palermo è stata la più eletta una ragazza sindaco di 26 anni, più giovane sindaco credo d'Italia, se non ho capito male. Magda Gullotta invece, questa è la Magda Gullotta, a Bari più votata Cecilia Ventricelli, anche questa 26 anni. Boh, insomma, sono, poi uno dirà l'età non è l'unica discriminante, però sicuramente insomma in questa operazione delle primarie qualcuno diceva vinceranno gli apparati del partito. Può darsi che sicuramente sono persone che fanno politica, abbiamo detto sindaci, consiglieri eccetera, però sono facce nuove, sicuramente saranno probabilmente portate in Parlamento dal PD. A Persel le novità sono il presidente dell'associazione calciatori Olivieri e l'ex portavoce del comitato dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite Laura Boldrini. 800 24 00 24, poi naturalmente c'è Berlusconi che tuona contro Monti e Napolitano, lo sentiamo tra poco, adesso il traffico. La Zanzara. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu, sono alti su per giù, due mele poco. Monti è il nostro avversario, non so se avete presente i fumetti, i puffi, no? C'è il mago cattivo, Gargamella, che è veramente cattivo, no? Perché vuole prendere i puffi e trasformarli in oro. E siamo proprio noi, noi siamo i puffi, siamo quelli che producono ricchezza, che lui vuole prendere e buttare nel pentolone. Ma Gargamella è sfigato, perché non ce la fa mai a prenderli. E questo invece era Maroni qualche sera fa, avete sentito, ha fatto questo paragone, Monti come Gargamella e insomma gli italiani come i puffi che devono essere trasformati in oro. Dicevamo di Berlusconi che tuona contro tutti praticamente, sentiamo Casini e Fini. In un'intervista recente l'onorevole Casini invece ha detto: io quando partecipavo non ai vertici del Consiglio europeo, bensì a quelli del PPE, diceva, quando prendeva la parola Silvio Berlusconi queste risatine c'erano effettivamente. È una menzogna totale ed assoluta che si aggiunge alle tante che l'individuo è abituato a formulare. È una cosa indegna che lui dica questo. Mi lasci dire che questo Casini con l'altro suo compare Fini sono veramente le peggiori persone che io ho avuto modo di incontrare facendo politica. Sono veramente una iattura. Li ho chiamati una volta, mi è scappato, orrendi, ma subito dopo ho aggiunto orrendissimi. Sì. Io non riesco a capire come possono attirare ancora dei voti da parte di persone con la testa sulle spalle. E poi c'è questa alzare il tiro e proporre una commissione d'inchiesta nella prossima legislatura per indagare su come ha fatto Monti, perché Monti è passato da capo di un governo tecnico, questa è una cosa che sta particolarmente a cuore al PDL, a candidato. Era nelle sue facoltà, era legittimo, però come operazione politica è molto criticata dal PDL, fino ad arrivare a dire la commissione d'inchiesta. Che coinvolgerà, secondo Berlusconi, anche Napolitano. Il boh era per questo, perché pensare in altri tempi Berlusconi che fa appoggio ad una commissione d'inchiesta non sarà mai sentito, cioè è uno strumento vecchio questo, a cosa serve la commissione d'inchiesta? Non serve a nulla, è per agitare un po' di polvere eccetera eccetera, però sembra un Berlusconi poco riconoscibile su questo aspetto, però si vede che non aveva altri strumenti per attaccare Monti, sentiamo. Io chiedo una commissione di indagine perché sono stati tanti gli interventi che hanno concorso in quella direzione. Primo tra tutto il fatto, tra tutti, il tradimento di Fini. Qual è stata la promessa che era stata fatta a Fini affinché lui compisse quell'atto di tradimento degli elettori e contro le leggi della democrazia? Credo che ne verranno fuori delle belle, anzi scusi, delle brutte. Vabbè, un ultimo passaggio di Berlusconi, lo sentiamo in una delle svariate interviste che ha rilasciato, Monti solo un tweet oggi, e Berlusconi invece tantissime interviste, in cui commenta, gli chiedono di commentare Grillo, Beppe Grillo, e insomma sembra quasi un duello tra vecchie glorie del palcoscenico, sentite perché. Sì, è sempre divertente Grillo, è rimasto quell'istrione, quel campione di comicità che io avevo modo di conoscere facendo la televisione, e ripete sempre le stesse cose, i suoi comizi sono straordinari perché lui è legato al testo, non se ne distacca mai, anche le battute che sembrano battute fatte sull'unghia, battute del momento, lui le ripete in tutti i comizi allo stesso modo. È un grande professionista. Ma anche credibilità? Nessuna credibilità. Va bene, insomma, avete sentito, ripete le battute a memoria. Questo fatto di ripetere le battute a memoria, ha detto la Berlusconi nei confronti di Grillo, sembra quasi voler dire è bravo, è bravino, è un bravo professionista, però non ci mette nulla di suo, no? Questa di Grillo non l'avevo mai sentito dire, insomma, che Grillo non ci metta niente di suo e che ripeta tutto quello che è scritto. Sembra quasi voler adombrare la tesi che fa tutto Casaleggio e che quindi, insomma, le battute gliele scriverà qualche autore. Il movimento lo fa Casaleggio, Grillo è lì che sta solo a recitare. 800 24 00 24, vogliamo cominciare a sentire anche qualche intervento, qualche telefonata in diretta? Le abbiamo qualcuno? Già sì. Allora, sentiamo Marco che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera e approfitto per dare gli auguri a tutti di un nuovo anno. Io vorrei anche esprimere, oltre gli auguri per tutti per un nuovo anno, anche un augurio per il mio mezzogiorno. Io vivo a Roma ma sono del Salento, di Gallipoli, e mi auguro che finalmente nel 2013 nasca una nuova classe politica nel Meridione, perché no, anche alimentata da un grande movimento neoborbonico che ormai da alcuni anni è presente nella... Ancora col movimento neoborbonico stiamo, perché a che servirebbe il movimento neoborbonico, mi scusi? Scusa, non lo sentiva bene. No, dico, a cosa porterebbe il movimento neoborbonico? Al di là del nome non porterebbe a una monarchia, voglio dire, questo lo precisiamo, ci teniamo a precisarlo per bene. Porterebbe a una piena consapevolezza sia delle potenzialità del mezzogiorno, sia delle cause per cui il mezzogiorno si trova in quello che oggi è, in un stato terzomondista quasi, nonostante le diffuse eccellenze, ma porterebbe a mettere in luce il vero male del mezzogiorno, che altro non è che una politica nazionale che favorisce solo il nord, che sul sud scarica, oltre alla spazzatura, anche i mali mediatici. Mediaticamente si parla sempre di... Sì, però non mi dica che le colpa, che i mali del mezzogiorno sono per colpa del nord, perché davvero questa cosa... Sicuramente non dell'operaio del nord. Potrei però perfettamente, senza menzogna, affermare che... il 90% sono dovute alle classi lobbistiche del nord. Nel sud occorre ricordare che quando si acquista qualsiasi servizio o prodotto, il 90% del costo è un costo trasferito al nord. Il nord sempre parla delle grandi tasse che dal nord fuggono verso Roma e che Roma poi regala al sud. Sono... E non è vero questo? Miliardi, sì. Sono circa 80 miliardi queste tasse che dal nord vanno verso il sud, ma il nord deve ricordarsi anche che ogni anno dal sud partono 420 miliardi di acquisti dal sud verso il nord. Va bene Marco, mi pare che abbiamo detto abbastanza su questo movimento neoborbonico, l'ho già sentita dire altre volte, chissà se qualche ascoltatore complice questa giornata di particolare euforia e di tappi che saltano magari le dà ragione. 800 24 00 24. Salutiamo invece con piacere Francesco Storace, buonasera. Buonasera a voi, buon anno. Segretario nazionale della destra, nonché a questo punto, visto... le parole di oggi di Berlusconi, anche candidato del centrodestra, era già candidato per la regione Lazio, però oggi Berlusconi ha detto che è disposto ad appoggiarla. Sì, sì, è una dichiarazione che mi ha sorpreso perché non mi aspettavo la facesse oggi. Mi ha fatto ovviamente piacere perché è una dimostrazione di fiducia e adesso abbiamo sulle spalle la responsabilità della vittoria. Senta, ma dice che non se l'aspettava. Berlusconi ha fatto così, avrà deciso. Più tutto, secondo lei avrà deciso da solo? Perché qua Alfano davvero ci sta facendo una figura. Non ha... sarebbe ma lui il segretario, no? Non mi aspettavo che lo dicesse oggi, perché immaginavo volesse prima risolvere la questione lombarda. Forse però proprio perché forse proprio perché non riusciva magari a risolvere quella, ha pensato intanto affrontiamo il Lazio, sennò c'era un'idea di attendismo del PDL che non scioglieva nessun nodo. Invece questo qui in Lazio... Nel Lazio. Scusi, sa, noi a volte non... No, voi altri tutti quanti, come l'Abbonino, diceva in Lazio, era così, nel Lazio. E poi, vabbè, comunque insomma tutto bene, adesso è partito un fantastico hashtag su Twitter... Che è? Storace 2013 è fantastico. Copyright suo? 2013 è il primo che la dice. Io in effetti non la voglio, però mi dicono che insomma, Giricchia, esatto. Però associata a Storace 2013 va bene. Lei ci crede? Ha detto in una prima dichiarazione che non punta solo a vincere in Lazio, ma anche a portare il premio di maggioranza al Senato, importante, per le politiche. Beh, credo che sia il minimo che bisogna fare, perché insomma la battaglia è evidente che è una battaglia politica, questa della regione, al punto che si creeranno schieramenti che duplicheranno quelli nazionali, ci sarà la sinistra che porta il PD, che porterà Zingaretti, poi l'estrema sinistra, quella ingroiana, una volta c'era quella ingraiana, no? Adesso c'è quella ingraiana, sì. Poi c'è il centro e poi ci siamo noi, insomma, credo che sarà una partita che si potrà giocare con buone possibilità. Lei esclude, ma a parte che non sta a lei dirlo, però insomma, che nel centrodestra laziale possa emergere un'altra candidatura, perché magari qualcuno non allineato con le scelte di Berlusconi, insomma, per quanto riguarda la politica nazionale c'è stata una piccola fuoriuscita di alcuni esponenti verso il centro. Ma guardi, a giudicare dalle telefonate, dalle dichiarazioni che stanno arrivando, pubbliche, dai messaggi che ho ricevuto, credo proprio che non ci sarà una sola voce distonica rispetto... Cioè sta parlando di esponenti locali o anche nazionali? No, nazionali. Chi è che ha la chiamata, se ce lo vuol dire? Beh, sicuramente Renata Polverini, ha fatto una bellissima telefonata. Francesco Giro, sì. Parlo di persone che erano indicate nei sondaggi come possibili candidati. E poi ho ricevuto messaggi anche da altri esponenti molto autorevoli del centrodestra, e che mi fa piacere, lo stesso Tajani. Cioè, insomma, c'è tanta gente che si è detta pronta a combattere questa bella partita e io ne sono felice. Però Zingaretti è partito con un largo anticipo, no? Sono alcuni mesi che fa campagna elettorale praticamente. Guardi, anche nel 2000 successe la stessa cosa. Lei è tranquillo? No, diciamo sono abituato a combattere le partite, certo, non ho mai combattuto una battaglia facile. O meglio, io sono uno che contraddice i sondaggi, quando mi danno perdente vinco e quando mi danno vincente perdo. Quindi dice, stavolta mi danno perdente e vinco. No, dicono gli altri, perché Zingaretti stava in testa senza nessun avversario praticamente. Uno che gira solo ha fatto la campagna immagina, no? Adesso immagina se perde. Senta, ma questa questione di Rita Levi-Montalcini, che adesso insomma non c'è più, non è più tra noi, so che lei ha già risposto sulle agenzie, chi ha ricordato quel famoso scontro che avvenne, no? Quando lei le fece recapitare le stampelle a casa. C'è stata una speculazione imbastita da Repubblica. Beh, hanno ricordato questa cosa qua. È una vicenda che credo si concluse, sì, anche con un atto formale di scuse che io rivolsi verso il Colle. Infatti è questo che mi interessava poi chiederle. Particolare... No, ma è chiaro che, a parte il fatto che mi hanno attribuito un'espressione che fu del mondo giovanile e non mia, quella delle famose di San Pedro, non ho mai usato un'espressione del genere. Disse Abajur. Io corri da Levi Montalcini, ebbi da governatore della regione e da ministro della salute il suo applauso per gli ingenti stanziamenti per la ricerca, proprio per la fondazione EPRI, di cui si parla sì, in questi giorni. La inaugurammo, l'aprimmo, la sostenemmo. Con l'amministrazione successiva alla mia, quella di Marrazzo, rischiò lo sfratto, invece ci fu una polemica fortissima. Da ministro della salute ottenni finanziamenti ingenti dal ministro Tremonti proprio per la ricerca oncologica, quindi credo che insomma è sgradevole che in morte di una persona, di una scienziata che ha fatto tantissimo per la medicina, si tiri fuori una polemica che fu politica da parte mia e non personale, però, che è rivolta nei confronti di un istituto, quello del senatore Vida. È veramente spiacevole, perché questa era una donna che ha fatto grande il nome dell'Italia, insomma. Quindi quando lei fece quella politica... Veramente brutto, insomma. Però insomma ci sono dei limiti, no? Quando uno fa anche polemica politica, perché fra l'altro, visto l'età che aveva, la questione delle stampelle, al di là del gioco di parola stampella del governo Prodi, non era proprio elegantissima. Cosa le disse lei per farla? Se l'avessi pronunciata io, non la pronuncia io, questo è il problema. Per esempio non vedo, per esempio oggi nessuno ancora si chiede che fine ha fatto una causa civile che io ho tentato 7 anni fa, quando l'Unità disse che mio padre era torturatore di ebrei, salvo poi scoprire che l'anno in cui a verificarsi quella roba aveva 12 anni. Ecco, è più grave o meno grave? Vabbè, ho questo... fatto io una domanda a lei, se posso permettermi. Diciamo che hanno avuto una rilevanza completamente diversa. Perché appunto, cioè, la povera gente può essere di ripesa. No, no, poi ognuno fa le strade legali che crede, cioè se la prende con chi no, crede. Ma, vedi, bisogna anche rispettare anche le persone, insomma, anche quando le prendono, non solo quando si dice che le diano, no? Sì, però Storace, quando faceste quella polemica forte, non solo lei per la verità, contro i senatori a vita, persone su cui uno può pensare quello che vuole, però anche di una certa età, fece un po' impressione anche la violenza tutto, verbale, i fischi, le urla, insomma, fu un momento e andò in televisione, lo videro tutti. Avrebbe ragione se avessi detto io quella frase. Sì. Non avendola detta io, è una questione campata per aria. Sulla quale io credo. E lei cosa disse? Cosa disse alla Montalcini in quello che scusare, io alla Montalcini non dissi nulla, io criticai l'istituto dei senatori a vita. Punto. Poi Repubblica fece un'abile campagna dicendo che avevo attaccato la Montalcini, ci fu la reazione del Quirinale. Io mi sono scusato al Colle, più di questo non posso fare. Va bene, facciamo se ancora qualche minuto per stare con noi, dobbiamo fare una piccola pausa. Poi le volevo chiedere anche qualcosa sul governo Monti. E anche una cosa sulla comunità di Sant'Egidio, perché c'è stato un articolo sul giornale un paio di giorni fa che l'ha definita la lobby dei finti poveri rossi, visto che lei è romano, sta a Roma, è stato governatore del Lazio, conosce fra l'altro l'uomo vicino alla chiesa, voglio sapere che ne pensa. La Zanzara. Eccoci qua di nuovo in diretta 800 24 00 24. Tra poco cominceremo anche a sentire i vostri interventi al numero verde. Prima però, sempre in compagnia di Francesco Storace, segretario della destra, fresco di investitura da parte di Silvio Berlusconi dell'appoggio del PDL per le regionali in Lazio. Storace, io le avevo chiesto questo. Siccome si è letto che insomma la comunità di Sant'Egidio, il ministro Riccardi, sono un po' una delle anime dell'operazione Monti, qualcuno critica anche questo. C'è un articolo su Il Giornale qualche giorno fa che però attaccava direttamente la comunità di Sant'Egidio, che sappiamo ha avuto riconoscimenti, donazioni a livello internazionale per il suo impegno eccetera. Lei, da uomo credo di chiesa, credo di poterlo dire tranquillamente, che ne pensa proprio della comunità di Sant'Egidio? È una finta lobby una lobby di finti poveri rossi, come dice Il Giornale, o no? Credo sia noto, almeno ad alcuni, non dirigo Il Giornale, ma Il Giornale d'Italia Online, che è un altro quotidiano che una cosa del genere non l'ha scritta. E vi spiego anche perché. Che Riccardi appoggi l'operazione Monti a me sembra quasi normale, se normale si può definire un governo tecnico che si mette a fare politica. Una volta che si passa quel Rubicone, è ovvio che chi è stato ministro di Monti si metta in movimento per il suo Presidente del Consiglio, ma definire la comunità di Sant'Egidio come l'animatrice del progetto Monti a me pare eccessivo. Io l'ho conosciuto la comunità, l'ho frequentata anche nei 5 anni di Presidenza, certo, regionale, ho sostenuto anche dei progetti che mi hanno portato. Ognuno ha le sue idee, però da qui a dire che poi diventa il regista di un'operazione mi sembra eccessivo. Anche perché poi devo dire la verità, sì, no, mi scusi, l'ho interrotta. No, dicevo, il regista dell'operazione si chiama Monti, certo, che è quello che ha tradito persino la fiducia del capo dello Stato. Non credo che faccia una bellissima figura il premio. No, tra l'altro questo articolo, poi vorrei sentire anche cosa ne pensano gli ascoltatori, perché magari invece qualcuno la pensa proprio così, si concludeva appoggiandosi su un fatto smentito dallo stesso autore, cioè il fatto che la riunione di 2 giorni fa, adesso non ricordo esattamente quando, insomma, c'è stata poi la conferenza stampa di Monti venerdì, si fosse tenuta proprio presso la comunità di Sant'Egidio, cosa che poi è stata smentita subito, quindi un fatto smentito, quindi non c'è nessuna evidenza in questo momento che sia il motore dell'operazione, insomma. Riccardi ha aderito. 2 giorni nell'eremo San Benedetto vicino Roma, sì, a Subiaco, e nell'abbazia dei monaci San Benedettini, però non è che sono diventati improvvisamente aficionados della destra. E lì abbiamo varato il nostro manuale della sovranità, sono i 10 punti programmatici del, sì, partito. Credo insomma che i luoghi religiosi aiutano spiritualmente anche a trovare una dimensione del pensare diversa rispetto alla vita moderna che siamo abituati a percorrere ogni giorno. Non credo che sia giusto spacciarli come sezioni di partito. E invece questa questione dell'appoggio del Vaticano, dell'endorsement nei confronti di Monti, secondo lei è vera? Non ci credo. Cioè lei non fa dietrologia dicendo il Vaticano, l'establishment appoggiano Monti, la massoneria, bla bla bla. Lei dice proprio che non è così, sono solo articoli dell'Osservatore Romano. distanti valorialmente e spiritualmente, non ce lo vedo il cardinal vicario agli incontri del gruppo Bilderberg, per intenderci. Cioè l'alta finanza e la Chiesa, beh, però insomma non è che in passato non ci siano stati punti di contatto tra la Chiesa. Ma da qui ad appoggiare letteralmente l'altra cosa. Senta, lei che ha criticato moltissimo il governo Monti, adesso che c'è l'operazione di candidatura di Monti alle prossime elezioni, la critica immagino che sarà ancora più all'ennesima potenza. Beh, diciamo che se viene eletto dai cittadini ha più diritto a governare. Se i cittadini vogliono un primo ministro che finora ha aumentato solo le tasse, lo autorizzerebbero a metterle ancora di più, perché se mettendo le tasse si vince, figuriamoci cosa combinerà. Si metterà le tasse anche l'Imula, riguarderà anche il bagno di casa, no? Non so che altro potrà complimentarsi, l'aria che respiriamo. Io spero che ci possa essere una competizione la quale i giochi orchestrati dal centro e dalla sinistra per poter governare insieme dopo le elezioni vengano spazzati via dal voto popolare. Faccio anche a lei la domanda: Monti di destra o di sinistra? Qualcuno dice che in altri paesi d'Europa Monti sarebbe tranquillamente il capo dei moderati, quindi della sua area storace, però poi sembra abbastanza evidente che in Italia invece, a parte qualche Caramuccia, l'ipotesi è quella del dialogo con la sinistra. Lei che ne pensa? Monti è semplicemente un gentiluomo asservito alle logiche finanziarie della Germania. Non so se si chiama destra o sinistra, sicuramente è un nemico dell'Italia. Cioè proprio un nemico della patria? Dell'Italia. E invece la questione della credibilità internazionale, non ne frega nulla. Obama, che hanno detto va bene Monti, che non è un tedesco Obama, però insomma. Beh, voglio vedere come finisce questa storia dei Marò per capire quanto siamo credibili dal punto di vista internazionale. Finora abbiamo dovuto pagare un riscatto per avere 15 giorni a casa. Lei dice che con Berlusconi questo non sarebbe successo? Beh, io credo che Berlusconi sul piano internazionale non ha fatto solo pacche sulle spalle. Combattuto battaglie di autonomia, pensate all'accordo che non faceva piacere ad altre parti del mondo con la Libia contro l'immigrazione, pensiamo all'accordo con Putin sul gas, non è che gli americani erano felici. Io ho visto nell'aggressione al governo Berlusconi anche molta parte di quell'establish mondiale a cui non faceva piacere un'Italia più libera, adesso ce l'hanno al servizio. Va bene, insomma, io le faccio gli auguri intanto per la candidatura nel Lazio, ecco, non sbagliamo ancora, e vabbè, il buon proposito per il 2013 di Storace qual è? È quello di riprendermi la stanza che un processo finito nel nulla mi aveva tolto 7 anni fa. Non teme il rischio minestra riscaldata? A Palermo questo è servito a rieleggere Luca Orlando. Lei dice quando la minestra è buona. Esattamente. Anche se è riscaldata. Va bene, grazie, auguri. Siamo ancora. Alla matriciana, diciamo. La matriciana. A presto, buona serata e auguri. Auguri. Francesco Storace, dicevamo, fresco di investitura oggi di Silvio Berlusconi, che insomma ha detto lo appoggeremo nel Lazio e quindi sarà lui il candidato del centrodestra. Amici del Lazio, 800 24 00 24, che ne pensate? Intanto sentiamo Giuliana che ci chiama da Piacenza. Buonasera Giuliana. Buonasera, sono un po' agitata perché sto parlando con una radio molto importante. Non si agiti, siamo tra pochi amici. La seguo molto. Sì. Ascolti, alla domanda Monti è a favore della destra o della sinistra, rispondo. Monti è solo a favore del proprio portafoglio. Del suo proprio. È un uomo cinico. E pensa solo a questo. Perché è interessato solo al suo portafoglio? Ma è proprio da eliminare. Sì. Perché lei dice che è interessato solo al suo portafogli? Perché ha tartassato tutta la povera gente come la sottoscritta e lui sta bene a fare la scelta adesso dove sta ancora meglio. Ho capito. Ma mica se l'è messo in tasca lui i soldi dell'IMU, sia chiaro, sono soldi dello Stato. Ecco. Sì, però lui non ha nessuno. Lui ha anche rinunciato allo stipendio. Non ha un titolo di coscienza, non parla mai degli esodati, non parla degli industriali che si suicidano, non parla dei disgraziati come me che arrivano a metà mese, non parla di queste cose, lui pensa solo al suo avvenire. Va bene, grazie Giuliana. Grazie, insomma, che debba parlare un po' di politica, l'ho detto anch'io, insomma, in effetti guardando anche il post di oggi sul sito Agenda Monti, che fa continuamente riferimento all'Europa, si rimane un po' disorientati perché è un termine, è chiaro l'ancoraggio all'Europa cosa voglia dire, l'euro, le politiche fiscali, tutto quello che volete, però mi sembra che di fronte a un'elezione di temi politici ce ne sono altri, ci sono appunto, come diceva la signora, le classi sociali più deboli, ci sono i temi etici, c'è l'ambiente, tutto questo rimane molto, molto in sottofondo in quello che si vede fino ad ora dell'operazione Monti. Sandro da Bergamo, buonasera. Prego. Noi dobbiamo, io sento tutta una critica lì sul governo Monti, ma pronto? Sì, la sentiamo, sì. Forte e chiaro, prego. Ma scusate, ma dobbiamo ringraziare che Monti si è messo in mezzo. Se c'ha viva voce lo tolga Sandro, perché non, sì. La sentiamo meglio se parla direttamente con noi. Aspetti, ce la fa, se no passiamo un'altra ascoltatura. Benissimo, vai. Vada. Normale. Ok. Pronto? Vada, Sandro. Ecco, io dico appunto, dobbiamo ringraziare che è stato, che abbiamo questo governo Monti adesso, che Berlusconi l'ha fatto cadere. Abbiamo acquistato, come dire, più fiducia per l'Europa, hanno fiducia, io appunto non ho più fiducia dei governi, specialmente il primo di tutti, Berlusconi, che non si vergogna di quello che dice. Mente continuamente. Vogliamo parlare di Storace, che vuol fare il nuovo candidato alla regione Lazio, che non sapete cosa ha combinato quando era lui nella regione, ha promosso un sacco di suoi amici, li ha fatti aumentare di grado, ma senza che questi avessero i requisiti per essere promossi a gradi superiori, e qui è tutto normale. Ma io lo so, sento il lamentare lì la gente che si è stata a pagare l'IMU, ma io non mi lamento per niente, sono pensionato, metalmeccanico, trovo giusto che si devono pagare queste cose. Semmai bisogna criticare i politici che non vogliono rinunciare ai vari privilegi che hanno, dovrebbero dimezzare la loro indennità, dovrebbero rinunciare al vitalizio, che è una cosa vergognosa. Ma scusate, ma io non so, cosa sono? L'unico che accetta le cose e tutta questa gente qua che si lamenta. Ma se ci fosse ancora qualcuno, allora noi saremmo come la Grecia, ormai arriveremo. Perché giustamente gli investitori europei, americani, mondiali, non hanno fiducia di noi se ritorna ancora questo Berlusconi, con tutte le falsità che dice, tutti i sprechi che ci sono stati. Io non capisco, mi sembra di essere l'unico fuori d'Italia che mi sta bene. Io non ho niente da dire sulle tasse da pagare, bisogna pagarle. Sì, lei è una mosca bianca, pensionato metalmeccanico, Sandro da Bergamo, che non ha niente da dire sulle tasse, insomma è un caso quasi straordinario, Sandro. Su che cosa è che lei avrebbe da dire invece? Io? Sì. Io sono d'accordo con quello che ha fatto Monti, ma dobbiamo ringraziarlo. C'è la signora prima che si lamentava. Lei lo voterà adesso alle prossime elezioni? Ma certamente, anche se prima votavo a sinistra, ma mille volte. Ma scusate, non abbiamo altra alternativa, ma la gente non ha ancora aperto gli occhi, non ha visto cosa hanno combinato i vari partiti, pensano al loro portafoglio. Sì. Non la spaventa che ci saranno da votare, Sandro, non la spaventa che ci saranno da votare, Sandro mi ascolti, non la spaventa che ci saranno da votare vecchi politici, lei si lamenta della vecchia politica, però... Lo so, ma purtroppo perché comandano loro, c'è stato nella sinistra e su Renzi, hanno fatto di tutto per non farlo azzittire, purtroppo... Quindi ci fosse stato Renzi, lei avrebbe votato Renzi certo e non Monti. Certo che l'ho votato io Renzi alle primarie, che scoperta, ma... Ma io non so, ma la gente dove vive? Vive in Italia o sta vivendo al Portogallo? Lei è stato a votare alle primarie. Sandro, alle primarie del centrosinistra adesso per le parlamentari ha votato? No, non ci sono andato perché io ho sentito che si candiderà Monti dice che basta, c'è, è andato su Monti, va bene. Come si dice, quel candidato del PD perché c'era Gori da sostenere, visto che lei ha scelto Renzi, c'era Gori da sostenere alle primarie del PD, certo, però lei che l'ha sostenuto per non c'è andato a votare. La prima volta sono andato a votare tutto. Quando vado lì al seggio mi costa 20 euro ogni volta che vado a votare, capisce? Mi è costato l'ultima volta. Sì, e non ha voluto rispendere questi soldi. Ma sembra, cioè, con tutto. Vabbè, non è che è costato 20 euro, c'era un'offerta da dare, non mi ricordo quant'era. Sì, no. 2 euro forse. Paga minimo 2 euro, sì. Vabbè, ma non è quello. Vabbè, allora non dica 20 euro se erano 2 euro. Sandro, non dica baggianate anche lei. Va bene, grazie per il suo intervento, illuminante per certi aspetti. Abbiamo il traffico. La Zanzara. Salirò fra le rose di questo giardino, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, pompa, pompa, pompa. Sì, è sempre divertente, Grillo. È rimasto quell'istrione, quel campione di comicità che io avevo modo di conoscere facendo la televisione, e ripete sempre le stesse cose. I suoi comizi sono straordinari perché lui è legato al testo, non se ne distacca mai. Anche le battute, che sembrano battute fatte sull'unghia, battute del momento, lui le ripete in tutti i comizi allo stesso modo. È un grande professionista. Ma anche credibilità? Nessuna credibilità. Nessuna credibilità per Grillo da parte di Berlusconi. Grillo invece visto da Antonio Ingroia. Sentiamo. Sono tante le battaglie sulle quali ci ritroviamo con Grillo. Il punto è scegliere, e questo dipende dai due interlocutori del confronto, se ritrovarsi su singole battaglie comuni o pensare ad alleanze strategiche. Chissà che ne pensa Grillo di fare alleanze strategiche con Ingroia. Intanto invece sentiamo Ingroia visto da Berlusconi. Sono giudici politicizzati che usano la politica e la giustizia per far fuori gli avversari politici. Guardi adesso l'evento Ingroia, è arrivato, si è dimostrato uomo di estrema sinistra, e pensi con quali metodologie e quali pensieri ha portato avanti un'indagine delicata come quella dei rapporti Stato-mafia, essendo pubblico ministero ed essendo così fortemente, totalmente radicato nell'ideologia della sinistra. 800 24 00 24, riprendiamo a sentire i vostri interventi. Al numero verde Luciano ci chiama da Pescara. Buonasera Luciano. Buonasera a lei. Eccoci qua. Prego. Come va? Abbastanza bene, sì. Tiriamo avanti. La sento maluccio, sì. Posso? Sì, no, la sentiamo male, non è che c'ha viva voce, qualcosa di attaccato. No, niente, ho tolto tutto come mi è stato ordinato. Proviamo, vada. Sto parlando direttamente dal telefono. Sì. Adesso mi sente? Vada, proviamo, sì, la sentiamo, Luciano. Io stavo dicendo che io ho una mia visione del tutto particolare, purtroppo siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Qui non è questione di quale colore politico vada a rappresentare Monti, qui la questione è che non c'è più il futuro. Qua hanno massacrato tutto, ma la colpa è anche nostra, perché non abbiamo fatto niente noi per cambiare la situazione. Prendiamo ad esempio gli ultimi eventi. C'è stata una primaria del PD, anche che io, se io non sono del PD, sì. C'era Renzi, che era il nuovo, no? Allora è inutile che poi la gente chiama e dice si vogliono i politici nuovi. Vabbè, ma lì è stata una scelta all'interno del Partito Democratico, hanno votato per Bersani. Vabbè. Ma anche se si dice che lui avesse dietro anche lui le sue lobby che lo appoggiassero. Ma è nuovo, no? Mai presentato, mai stato in politica. Ma ci è votato ancora Bersani. Ma non è la gente, no. Vede, è la gente del PD, sono gli elettori del PD che hanno scelto Bersani, perché si sentono più rappresentati da lui che non da Renzi. Del resto però, scusi Luciano, di novità adesso ce ne sono, c'è Monti, c'è Grillo, insomma queste elezioni uno non manca la scelta, Pronto? Sì, ma che la scelta ci sia, nessuno lo mette in dubbio, ma che è questa la situazione, è che Grillo viene preso un po' sul serio e sul facile, non si sa perché tante volte si fanno soltanto delle battute a suo carico. Monti l'abbiamo avuto per un anno, no? È stata tutta una critica da parte del popolo, che ci ha sobbarcato di tasse, che ha fatto quello, che ha fatto, ha messo soltanto dei tributi aggiuntivi. Ma dove sono le vie di fuga per la crescita? Cosa andranno a fare i nostri politici, quelli che verranno votati, per far sì che questa nazione esca da questa situazione di stallo? Io non vedo via di uscita. L'Italia c'ha tre cose: il clima, le ricchezze che ci hanno lasciato gli antichi romani, il Rinascimento, se non sbaglio, no? E l'inventiva. Qui non ci sta più niente. Quello che ci hanno lasciato è tutto caduto. Guardi Pompei, massacrato. Quello che l'hanno restaurato. Vabbè, Luciano, una telefonata senza speranza proprio la sua. Ci ha chiamato per dirci che non c'è niente da scegliere, non c'è niente interessante, non c'è, ci sono solo macerie. Non so, ci vuole lasciare con un brutto pensiero ancora peggiore di questo o con un buon proposito, Luciano, per l'anno prossimo? Ma io mi auguro che qualcuno, ma che non che questi qui non siano in grado, ma io mi auguro che facciano qualcosa di veramente positivo. Sì, però io dico, mi scusi Luciano, io capisco la sua amarezza come quella di tanti, però ripeto, c'è a queste elezioni, ce n'è per tutti i gusti, c'è il centrodestra e il centrosinistra come l'abbiamo conosciuti fino adesso, c'è un centro di Monti, piaccia o non piaccia, che è una novità, c'è Grillo che è accreditato su percentuali importanti, potrà dire la sua nel prossimo Parlamento, che ha posizioni totalmente opposte per esempio a quelle di Monti, quindi insomma, non lo so, ci si può sempre lamentare, no? Però secondo me adesso ci si può anche schierare, ci si può anche identificare, c'è quasi una... poi c'è la sinistra ancora più estrema, ci sarà la Lega, insomma, voglio dire, mai come questa volta si può andare e scegliere cose tra loro diverse e dire la propria, sennò si resta sempre lì a... beh, una vecchia questione quella del lamentarsi, no? Vabbè, insomma, che dire. Silvio, andiamo ad Arezzo, buonasera. Buonasera, mi sente? Sì, la sentiamo. Buonasera, no, io sono un ascoltatore della Zanzara e stasera sono riuscito a prendere la linea perché avete parlato del blog del Fatto Quotidiano di Gesù Monti. Sì. Io inviterei, proprio alla luce di una sana visione delle cose, di fare un blog per ciascun politico candidato. Sì. Perché un blog, intanto un blog, non un blog. Parliamo di un montaggio, serrato. Lei vuole fare un blog per tutti i candidati, cioè per i candidati Berlusconi, Bersani? Per tutti, perché avrei piacere di leggere sulla stampa, di ascoltare o di leggere su internet. Quante cose, quante bugie vengono dette alla faccia degli italiani che lavorano. Sì, ma lei questo lo dice perché in qualche modo vuol difendere Monti oppure lo dice così a prescindere? No, guardi, io lo dico, non voglio difendere neanche Monti perché è stata una parentesi, secondo me, obbligata. Sì. La leadership vera non l'ha ancora espressa Monti, secondo me. Ma lei lo voterà? La cosa grave è che... Lei lo voterà, la cosa Monti. Grave, dottore. Sì. Guardi, forse lo voterò, forse sì. Però la cosa grave qual è che la cosa si chiede grave? Una commissione d'inchiesta, sì. Gridando al complotto, quando non ci si ricorda che in quegli stessi momenti in cui la Germania risparmiava centinaia di milioni di euro con tassi zero, noi continuavamo a dare soldi agli amici degli amici, a fare le feste col burlesque. Cioè, a me mi sembra che l'italiano medio che abbocca queste cose veramente fa vergogna. Va bene, Silvio. E tra l'altro, insomma, chiedere una commissione da parte di Berlusconi, una commissione, a parte che non servono a nulla le commissioni d'inchiesta, e mi stupisce che Berlusconi stesso, che è uomo pragmatico, sia arrivato ad appellarsi a questo. Quando poi lui stesso l'aveva candidato come leader, insomma, dei moderati, quindi adesso c'è stata una bella piroetta. Se avesse accettato Monti di candidarsi per i moderati, niente commissione d'inchiesta su questi ultimi 12 mesi. Questa è anche una bella domanda da fare a chi invece come dire, sposa questa idea. 800 24 00 24. Io a questo punto però mi fermerei per il giornale radio e di nuovo ci risentiamo tra poco con i vostri interventi al numero verde 800 24 00 24. La Zanzara. Salirò fra le rose di questo giardino, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, pompa, pompa. Va bene, da quando è salito in politica Mario Monti non si parla d'altro, ma risentiamo dal sito ilfattoquotidiano.it un breve blob di questo anno di governo Monti tra battute, gaffe, risatine. Questo almeno avveniva all'inizio di questa esperienza, ovvero sia a febbraio di quest'anno. Credo che potremo andare più decisamente a fondo in senso buono, fino in fondo, scusate, incisivamente. Quello che succederà dopo per l'Italia, non per me perché non ci sarò, beh, spero ancora di essere vivo, ma insomma non sarò in posizione di responsabilità. Io non parlerei mai, anche se dovessi farla, di una discesa in politica, trovo orrendo questo. Anche oggi escludo di considerare una esperienza di governo, per quanto mi riguarda, che vada oltre la scadenza delle prossime elezioni. Ora, che non si candidava l'aveva detto chiaramente in più e più occasioni, anche fino a poco tempo fa. Poi è ovvio che Mario Monti ha cambiato idea e sta per nascere quello che lui chiama oggi sul suo sito un movimento civico, non un partito. Sicuramente non guarda a destra, non guarda a sinistra, un movimento civico che guarda all'Europa e soprattutto alla questione, diciamo, fiscale, della tenuta dei conti pubblici, un'agenda un po' arida per chi è abituato a parlare di politica, un'agenda che può piacere, può non piacere. Adesso non ci sono ancora sondaggi, ma insomma potrebbe arrivare il 10-15%, vedremo dopo che queste novità politiche che si sono messe in cammino in questi giorni cominceranno a sedimentare. Dalla settimana prossima, tra qualche giorno, ci saranno anche i primi sondaggi. Monti, abbiamo sentito, ha sicuramente cambiato idea sul fatto di salire in politica. Di lì a chiedere, come fa Berlusconi oggi, una commissione d'indagine sulla nascita di questo governo, perché c'è stata una congiura contro di lui, è un po' fantapolitica. D'altra parte Berlusconi ci ha abituato a questo tipo di uscite, di sortite, anche se questa idea è veramente fantasiosa, anche perché fino a qualche giorno fa Berlusconi si era rivolto a Monti per chiedergli di candidarsi alla guida dei moderati. Come fai a chiedere a uno che è il capo dei congiurati di diventare il tuo rappresentante politico? Questa è la follia, secondo me, alla quale Berlusconi dovrebbe rispondere. E insomma, chi invece adesso ce l'ha su con l'operazione Monti, ce la si può avere per questioni politiche, perché non si approva il modo di lavorare di Monti, quello che ha fatto, quello che promette, ma non perché ha cambiato idea e adesso si è candidato. Questo è un fatto politico, bisogna prenderne atto, punto e basta. Insomma, non ci sono commissioni di indagini che tengono. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Sentiamo un altro passaggio del blob proposto oggi dal Fatto Quotidiano.it. Sentiamo. Presentare al tavolo internazionale un paese sempre più credibile, altrimenti alla pacca sulla spalla segue il risolino e segue l'inazione. Espressioni di aperto sostegno, per cui sono molto grato, come quella di oggi del presidente Berlusconi, sono tutte cose che rasserenano. Si rischia di coprire con il leaderismo l'assenza di idee o le idee sbagliate. Sono molto riconoscente a titolo personale, ma soprattutto perché dà prova di senso di grande responsabilità verso il Paese, il suo atteggiamento di sostegno degli sforzi di questo governo, quindi in questi casi ovviamente lo ringrazio. Questa è la peggiore forma di voto di scambio, e svenda il futuro dei giovani italiani per farsi rieleggere. E qui, anche se non era direttamente riferito a lui, parlava sicuramente del modo di fare politica di Berlusconi con le promesse, quella che Monti ha definito demagogia. Intanto in queste ore si fa il punto delle primarie parlamentari del PD e di SEL, che insomma bene o male hanno adottato questo strumento di democrazia, insomma hanno chiamato a votare 1 milione di persone. E ci sono insomma le conferme di Rosy Bindi e Anna Finocchiaro tra quelli che avevano avuto la deroga per essere ricandidabili anche dopo 15 anni di esperienza parlamentare. Ci sono le conferme della Pollastrini a Milano e di Damiano a Torino. Ci sono anche molti giovani, Abbiamo detto anche prima, insomma, candidati tra 25 e 30 anni che a Brescia come Miriam Cominelli, a Torino come Francesca Bonomo, a Bari come Cecilia Ventricelli o a Palermo dove addirittura una 26enne sindaco, credo il sindaco più giovane d'Italia, Magda Gullotta, sono stati molto votati, e questa è un'operazione che può far piacere a chi ha a cuore anche il criterio renziano della rottamazione. Giovani e politici crescono in casa del PD dopo queste primarie. 800 24 00 24, ma come dicevamo c'è chi invece continua ad attaccare Monti, l'operazione di Monti, Berlusconi e la commissione d'indagine. Io chiedo una commissione d'indagine perché sono stati tanti gli interventi che hanno concorso in quella direzione, primo tra tutto il fatto, tra tutti, il tradimento di Fini. Qual è stata la promessa che era stata fatta a Fini affinché lui compisse quell'atto di tradimento degli elettori e contro le leggi della democrazia? Credo che ne verranno fuori delle belle, anzi scusi, delle brutte. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Vabbè, poi insomma questo modo di dire di Monti sicuramente ha cambiato, no? Diciamo anche l'altro giorno, il linguaggio della politica. Adesso chi dice scendere in politica istintivamente deve subito mordersi la lingua, perché non si può più dire, adesso si dice salire in politica. È una piccola sfumatura, però sicuramente sta segnando il linguaggio politico di queste ore. Adesso fermiamoci un attimo, sentiamo i titoli del TG3, poi cominciamo, riprendiamo a sentire i vostri interventi all'800 24 00 24. Staremo insieme questa sera fino alle 21, perché poi sentiremo anche il discorso di Napolitano. Chissà se il Presidente della Repubblica sentirà il bisogno di rispondere a Berlusconi, che appunto nel chiedere una commissione d'indagine sulla nascita del governo Monti sicuramente, anzi sicuramente, anche se non lo ha citato direttamente, tira in ballo anche il Capo dello Stato. TG3. Berlusconi all'attacco di Monti e Napolitano. Indagheremo sul ruolo di tutti nella caduta del mio governo. Lega ininfluente se corre da sola. Flavio Tosi, ospite del TG3. Alle primarie del PD premiati i giovani e le donne. Tanti volti nuovi ma anche riconferme. Renzi non sono un capocorrente. In campagna elettorale da una mano a Bersani. Monti, non siamo un partito di centro ma un movimento civico per cambiare l'Italia. Nessuna alleanza con forze anti-europee o populiste. $400.000 l'anno è la soglia compromesso tra Obama e i repubblicani. Più tasse per chi guadagna di più e via libera, forse al piano fiscale americano. Peggiorano le condizioni del presidente Chavez. Annullato a Caracas il concerto di Capodanno e il vicepresidente chiede al Venezuela, pregate per lui. Liberato con un blitz Andrea Calevo, l'imprenditore rapito 2 settimane fa a Lerici. Era tenuto in catena in una cantina a pochi chilometri da casa. 3 persone fermate. L'omaggio a Rita Levi Montalcini nella Camera Ardente in Senato. Napolitano, politici ma anche tanti giovani. Il suo esempio ci sostiene nello studio e ci rende orgogliosi di essere italiani. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Eccoci qua, 800 24 00 24 con i vostri interventi in diretta. Chi sentiamo? Pasquale, che chiama da Lecce, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie Pasquale. Dunque, anch'io sono per Monti, per parecchi motivi. Sì. Prima, mi sentite? La sentiamo forte e chiaro. Sì. Prima perché Monti non ce l'ha mandato il padre Eterno, ce l'ha mandato la politica, cioè il fallimento della politica, dei politici. Quindi non c'è nessuna congiura contro Berlusconi, secondo lei, all'origine del governo per Monti? Per carità, Berlusconi dovrebbe andarsene alle Hawaii, non so, con tutti i soldi che c'ha, è così ricco, ma che cosa fa? Io l'ho votato fino al 2008. Adesso basta, io sono un elettore di destra nato da sempre. Lei ha votato Berlusconi alle ultime elezioni nel 2008, però adesso dice basta. Sì, no, rimango di destra, non è che me ne andrò a sinistra, per carità, sì. Ci mancherebbe altro. Quindi sono per Monti. Quindi Monti però non è di sinistra, Monti è di destra. Voterò Monti se Monti sarà a capo della coalizione e farà il Presidente del Consiglio. e sempre se non farà entrare i fini, i casini, tutti i politici che hanno fallito. Ma scusi, Pasquale, non vorrei di rovinarle la festa, però sicuramente Casini entrerà. Sicuramente ci saranno anche esponenti ex del Partito Democratico, sicuramente ci saranno Cesare Buttiglione, probabilmente ci sarà anche Fini con una lista a parte. Questo pare garantito al momento, quindi se lei deve decidere. Pasquale. Stavo dicendo, però un attimo, lei ha detto io lo voterò se non ci saranno Casini, ma se Casini ci sarà, lo voterà lo stesso o no, Monti? Vedrò prima la coalizione come è formata, perché ripeto, sono deluso della politica perché non ne posso più, guarda, sono incazzato veramente. Vedere le stesse, ecco, io il PD per esempio avevo fiducia a Renzi, sì. E siccome ecco poi l'apparato l'ha fatto fuori, ecco, vedere di nuovo le elezioni. Se fosse candidato Renzi, avesse vinto le primarie, lei l'avrebbe sostenuta alle elezioni. Sì, io non sono andato. È già il secondo ascoltatore stasera. È già il secondo ascoltatore, quindi che dimostra, grazie Pasquale, il teorema, non so chi l'ha scritto sui giornali, ma insomma non ci vuole molto a fare questo teorema, che la mancata presenza di Renzi in questa fase della campagna elettorale può accentuare la diaspora di elettori che avrebbero sostenuto in qualche modo il PD, ma che andranno alla fine a votare Monti. Tutto da vedere però se questi elettori avrebbero sostenuto il PD anche con Renzi presente, ma non candidato, perché adesso questi elettori devono votare Bersani e se non lo vogliono votare non lo votano a prescindere, secondo me, dalla presenza o meno di Renzi in campagna elettorale. Un po' contorto questo discorso. Vabbè. 800 24 00 24, ci abbiamo Michele da Ravenna, buonasera. Salve, buonasera. Niente, io concordo con quello che ha detto lei. Secondo me Berlusconi nella sua follia lucida già 2 mesi fa sapeva esattamente dove sarebbe arrivato. Le primarie chiaramente erano una bufala fin dall'inizio, la presunta candidatura di Monti come leader del centrodestra era chiaramente una bufala, il risultato è che al giorno d'oggi Berlusconi di fatto ha quasi ricompattato il centrodestra su di sé, mentre 2 mesi fa era contrariamente allo sfascio, e ha messo Bersani in estrema difficoltà, perché da una parte chiaramente l'errore, il peccato originale è stato fare le primarie non di partito ma di coalizione senza avere un programma comune, e Bersani da una parte avendola e dall'altra parte chiaramente c'è Monti. Concordo con quello che ha detto lei, io 15 anni che non votavo e sono quindi nel 35% degli italiani, che è sostanzialmente la maggioranza, sono andato a ritirare la tessera elettorale, ho votato Renzi, chiaramente Renzi non ha vinto, io sì. Il PD con Bersani non lo voto e voto sicuramente qualsiasi, secondo me Monti non doveva presentarsi da un punto di vista etico, ma ragionando in maniera egoistica voto Monti in qualsiasi maniera si presenti, perché è l'unica chance che ha l'Italia di fronte all'Europa, di fronte al mondo. Ma Berlusconi, essendo chiaramente un animale politico, sapeva già, questo insomma io seguo abbastanza i giornali, nessuno l'ha scritto, ma sapeva già a che punto, se lei ragiona, il centrodestra si è ricompattato perché dal centrodestra sono usciti in 2-3, il centrosinistra adesso Bersani non sa più da che parte girarsi, il peccato originale era chiaro, cioè un programma Vendola e Renzi non potevano presentarsi, cioè il PD doveva fare le primarie di partito, chi vinceva aveva le mani libere per poter scegliere. E io credo che Monti se la giochi con i 7-8 milioni di non, io credo che la percentuale di non votanti diminuirà, perché queste sono elezioni che possono segnare la svolta del paese, e Monti... Sì, sono d'accordo con lei, sicuramente c'è anche un'offerta politica abbastanza nuova, per cui esatto. Dovrebbero attirare un po' di gente a votare, insomma, ci sono cose così diverse come Grillo e Monti, per esempio. Esatto, adesso io Grillo non... Cioè, il Grillo è l'evoluzione della Lega, cioè il 93... Sì, Grillo, ma insomma... Va bene, va bene. Grazie anche a Michele. C'è un ascolto. ascoltatore al 349-238-6666 che ci scrive: Monti non si candida perché è senatore a vita, per cui non ha cambiato idea, sottolinea questo aspetto Carlo da Mirandola. Però guardi che invece sì, ha cambiato idea, perché non si candida alle elezioni, però si candida ad avere un ruolo politico di primo piano, perché accidenti, più di così, accetto la candidatura a Presidente del Consiglio, ha detto due giorni fa. Quindi si sta candidando, e come, a una cosa che invece fino a qualche mese fa aveva sempre escluso categoricamente. Altrimenti che cosa escludeva quando diceva escludo di avere ancora un ruolo politico di primo piano dopo questa esperienza? Guardate che Monti ha cambiato idea. Io dico che la questione della commissione d'indagine di Berlusconi è un'arma da campagna elettorale spuntata, tra l'altro, e anche sbagliata. Perché non c'è stata nessuna congiura. Però Monti ha cambiato idea, questo sì. Ma si può cambiare idea, no? La Zanzara. 19:32 minuti, salutiamo con piacere Pippo Civati, consigliere regionale lombardo del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Nonché fresco di, insomma, aver preso... Quanti voti Civati ha preso lei a Monza? Ne ho presi un po', sì, insomma, quelli che servivano. Il 60% degli aventi diritto, ho letto da qualche parte, circa. Sì, un pochino di più. 62. Ha avuto una bella investitura, ha preso un sacco di voti. Del resto Civati accontenta nel Partito Democratico un po' tutti, perché è una nuova leva sicuramente, però ha già un passato politico, quindi diciamo, almeno a livello locale, è anche, possiamo dirlo, insomma, anche un po' un uomo d'apparato, perché non è che lei viene da Marte, insomma, sta facendo politica in questi anni. Tra l'altro, percentuale bulgara fa quasi sorridere, perché qualcuno potrebbe dire, visto quelli dell'apparato, candidati pilotati, e invece non penso che lei la veda così. Ma sì, che io sia dall'apparato, non so, farà sorridere un po' l'apparato, perché ho sempre rotto le scatole sulle questioni come questa, perché le primarie per i parlamentari sono una battaglia che ho portato avanti a lungo in questi mesi, in questi anni, e il solo fatto che ci siamo fatte per me è un grande successo. Al di là del mio risultato personale, sono molto contento che siano entrate persone che non sarebbero mai entrate in Parlamento se non attraverso questo strumento, perché le logiche sarebbero state diverse. Quindi insomma, alla fine un bilancio positivo di questa per forza, insomma, bastava che la gente andasse a votare, poi dopo quello che è stato, l'esito è la scelta delle persone, su questo non si può contestare. Un milione di voti, forse avremmo potuto farle a gennaio e avere un pochino più di gente. Esatto, soprattutto per i candidati davvero outsider, cioè le persone che si candidavano senza avere un consenso, un seguito già consolidato, che sono state un po' penalizzate da una campagna elettorale liofilizzata di 2 o 3 giorni durante le feste. Liofilizzata non è male. Sì, è stato tutto concentrato, e speriamo che possa invece estendersi ed espandersi in una campagna elettorale di politiche che poi sono quelle che ci interessano di più, insomma, quelle che dobbiamo vincere davvero. C'è un bel nucleo anche di giovanissimi, ancora più giovani di lei, insomma 25, 30 anni, trentenni in varie parti d'Italia, quindi Bersani anche di questo si è felicitato, segretario del suo partito. D'altra parte è un buon segnale per chi ha a cuore, come anche lei, almeno insomma, il criterio un po' della rottamazione, quantomeno del rinnovamento. Questo dovrebbe stare, credo, a cuore un po' a tutti, perché altrimenti poi non si capisce di cosa ci lamentiamo. Sono proprio d'accordo con lei, più che la rottamazione serviva un'occasione di ricambio molto forte, democratica, decisa dagli elettori, non a tavolino, sulla base di un concetto che alla politica fa bene, che è quello di ricambio. Ci sono molti giovani, ci sono molte donne, perché avere inserito la possibilità di votare 2 persone di genere diverso e comunque garantire il 40% delle liste al genere meno rappresentato, secondo me è un segnale altrettanto forte, e nel nostro paese assume connotati rivoluzionari, perché purtroppo è la questione maschile a imporsi sempre, no? Nella gestione della politica e anche del potere in noi. Quindi insomma, non voglio sembrare troppo buono, ma siamo tra Natale e Capodanno, per cui un messaggio largamente positivo, qualche pecca c'è sempre, la supereremo magari la prossima volta. Senta, io non ho capito alla fine che fine hanno fatto i cosiddetti derogati, no? Quelli che nel suo partito, che avete votato alla direzione nazionale qualche giorno fa, per dare la deroga a 10 esponenti, insomma, a 10 parlamentari che avevano più di 15 anni di passato in, di attività parlamentare, no? E avevano bisogno quindi della deroga votata. Però, allora, a parte qualche domanda gliela voglio fare anche sui singoli. Io so che lei si è astenuto, tra l'altro, perché non era del tutto favorevole a questa decisione. No, non ero favorevole anche perché avevo chiesto di votare separatamente i casi, ogni singola deroga già a luglio, per cui mi sembrava un criterio più civile, più serio. E poi Enrico Letta in quell'occasione prese l'impegno che tutti quelli che venivano derogati si sarebbero presentati alle primarie. Che poi non è stato così invece. Non mi pare sia andata esattamente così, appunto. Rosy Bindi si è candidata in Calabria, Anna Finocchiaro ha fatto altrettanto in Puglia, se non vado errato, però insomma non mi pare che proprio tutti i 10 derogati. No, infatti volevo chiedere anche a lei notizia. Allora, prima di tutto bisogna dare atto alla Finocchiaro e alla Bindi di averci messo la faccia, sono comunque andate a farsi votare, sono state elette, e quindi questo già è un punto, diciamo, a loro favore. Poi, a parte perché sono d'accordo con lei, sarebbe stato più logico votare caso per caso. Per esempio Beppe Fioroni, no? Perché è stato ritenuto degno di... Perché la Bindi è la presidente del partito, quindi ha un ruolo altissimo nel partito. La Finocchiaro è la capogruppo. E Fioroni perché la deroga, secondo lei? Questo non lo so, perché non abbiamo discusso, appunto. Si è stata presentata una era un pacchetto così. 10 persone, era un pacchetto, sì, natalizio. E oggettivamente Fioroni è una figura di rilievo nell'ambito del Partito Democratico, però appunto non le so dire perché sono stati individuati quei nomi, altri no. Per esempio altre persone come Livia Turco hanno rinunciato, erano un po' nelle stesse condizioni, insomma venivano da numerose legislature. Ripeto, per fare bene le cose fino in fondo si sarebbero dovute votare le deroghe una per una, oppure chiedere, come appunto era stato detto, che tutti comunque si sottoponessero alle primarie, perché quello era il passaggio decisivo, insomma, per tanti motivi. Adesso la questione riguarderà la formazione della lista, della parte bloccata della lista, che comunque c'è, che è demandata ai livelli regionali e nazionali del partito, e speriamo che siano rappresentate però le figure che non potevano partecipare alle primarie, cioè quei nomi e quelle competenze e quelle professionalità molto alte che però non avevano tempo di organizzarsi in una settimana, che invece è giusto che si dà in Parlamento. Spero che non ci siano recuperi, ecco, in quella lista, in quella parte della lista, se non sulla base di grandi competenze di governo, perché poi alla fine speriamo di andare al governo. Senta, ma la questione, insomma, i quattro transfughi dal Partito Democratico verso Monti, unitamente Ichino e Adinolfi, unitamente a il mancato impegno in prima persona di Renzi, noi già stasera abbiamo ricevuto gli ascoltatori che dicevano io Renzi l'avrei votato, adesso voterò Monti. Se Renzi non si fa sentire, questi elettori dal PD, anche rispetto ai sondaggi di queste ultime settimane, potrebbero andare verso Monti. Questa uscita di Monti, quanto rischia di essere in competizione con voi, di portarvi via voti, secondo lei? Ma intanto, rispetto ai transughi, le dirò che mi dispiace sia per noi che per loro, cioè non è stata, secondo me, una mossa politicamente molto seria da parte loro, perché se si è partecipati alle primarie poi si contrae un patto, sia che si vincano sia che si perdono. Io ne ho persi tanti di congressi e non sono mai andato da un'altra parte. Dall'altra parte mi dispiace per noi perché, come diceva lei, c'è un pericolo che non solo Monti sia attrattivo dal punto di vista elettorale, ma che si perdano figure che parlano a mondi diversi, e sicuramente il ruolo che Renzi e i suoi sostenitori possono avere in questa campagna elettorale non è un fatto secondario. Io penso che Bersani questo lo consideri molto importante. Ma Renzi però che fa? Perché sembra di capire che... Non lo so, leggendo Gori, leggendo la lettera che Gori ha pubblicato ieri, ho l'impressione che tutti gli chiedano adesso di farsi vedere e di fare quello che aveva sempre detto, che avrebbe sostenuto che avrebbe vinto le primarie. Io me lo auguro, insomma, lo auguro anche a Renzi per certi versi, perché altrimenti sembrerebbe un gesto non costruttivo verso il Partito Democratico. Cioè, tra il fatto di partecipare come candidato, cosa che Renzi è escluso perché vuole fare il sindaco, e stare zitto, lei dice c'è almeno la possibilità di sostenere Bersani chiaramente, questo dovrebbe farlo. Secondo me dovrebbe, se davvero le primarie hanno questo senso. Le primarie sono uno strumento che consente alla competizione, ma anche come le dicevo, un patto che chi perde sostiene il vincitore. Sì, ma chi perde, poi non mi pare che Renzi abbia perso, cioè il concetto di sconfitta nelle primarie è un concetto molto più morbido di quello elettorale classico, sì. Perché chi perde le primarie in realtà acquisisce visibilità, rappresenta una fetta di elettorato e il risultato delle primarie va visto tutto, va visto il 60% di Bersani, il 40% di Renzi e anche quello che è successo, diciamo, con Vendola al primo turno. Non si può banalizzare un risultato così e molti elettori si sentono un po', insomma, sospesi, ecco, in questa fase. Sarà impegno, credo, di tutti recuperarli per la sfida elettorale, altrimenti faremo un errore. Senta, ma il prossimo Parlamento sarà sicuramente, vedrà per forza di cose un dialogo tra il Partito Democratico e anche, insomma, la nascente agenda Monti, oppure voi andate dritti per la vostra strada con Sell, però si sa che i numeri al Senato sono un po' stretti e questa necessità potrebbe esserci, no? Sì, guardi, non lo so, non so se la lista Monti alla fine non ci consentirà di vincere più regioni di quanti ne vinceremmo senza, questo è un calcolo abbastanza difficile da fare sulla carta. Perché certo, questa è una cosa importante, però, cioè lei sta dicendo che la lista Monti potrebbe, dividendo una parte dei voti del centrodestra, per esempio in Lombardia, dove c'è un pesante premio di maggioranza al Senato. Vedo che hai capito dove volevo andare a parare, certo. Leggiamo un po' di giornale. Come lo aio alla Lombardia. Esatto, è una regione che a questo punto diventa davvero, non dico in bilico, però insomma è una sfida aperta e lì per esempio l'effetto della lista Monti non lo so prevedere, come non lo so prevedere in alcune regioni del Mezzogiorno, soprattutto se nella lista Monti entreranno esponenti, diciamo, dell'antica Democrazia Cristiana, per capirci che nel Mezzogiorno hanno ancora molto seguito, quindi non le so dire come va a finire. Certo è che con Monti il Partito Democratico è stato leale fino all'ultimo giorno e quindi un confronto poi in Parlamento ci sarà di sicuro, non so in quali termini. Però di più per ora non si può dire. Mi sembra già comunque Civati, chi lo conosce sa che parla abbastanza, dice quello che pensa, insomma, quindi anche qua sta dicendo quello che può dire. Cioè, a questo punto si può immaginare che ci sarà un dialogo, però poi ovviamente ognuno farà la sua campagna, bisognerà vedere se il Partito Democratico con Sell avrà la maggioranza. A quel punto ovviamente non andrà a chiedere un sostegno ad altri, come è naturale che sia. A questo punto però in Lombardia, secondo lei la candidatura di Ambrogioli diventa, come dire, cioè può avere, ce la può fare? Secondo me ce la, sì, anche prima, insomma, bisogna capire come si organizza il centrodestra, perché Maroni curiosamente ha affermato qualche giorno fa che vuole allearsi col PDL solo in Lombardia, che mi pare gli piace vincere facile, no? Insomma, mi pare che quello che chiede il PDL alla Lega invece è un sostegno anche a livello nazionale. Diciamo almeno nel nord in generale, anche perché poi, come sappiamo, il Piemonte e il Veneto ad esempio sono governati insieme da PDL e Lega. Ci sarà da capire quello, ci sarà da capire quale consistenza ha questa terza posizione, sicuramente in Lombardia, soprattutto a Milano, credo avrà molto successo, però insomma poi vediamo, perché poi le elezioni sono particolarmente belle perché non si sa mai come vanno a finire, quindi escluderei di vincere con troppa sicumera questa partita. Non porta mai bene. Come? No, dico, non porta mai bene dicendo così, insomma. No, infatti così. Poi gli altri episodi, tanti anni fa ero un ragazzo, c'era una gioiosa macchina da guerra, ecco, cambiamo metafora, facciamo una campagna elettorale su tutto il territorio nazionale, anche grazie a questi nuovi parlamentari scelti. Sì, che possono forse dare anche un segnale. A proposito di Occhetto, visto che i 4 transfughi di cui parlavamo prima del PD verso Monti, in una lettera di oggi sul Corriere, credo, citano proprio Occhetto e dicono: ce ne andiamo perché non vediamo l'evoluzione del Partito Democratico. Che differenza c'è tra Occhetto e Bersani? Lei che differenza ci vede tra Occhetto e Bersani? Intanto ci vedo 20 anni di Ulivo, di uno spirito che comunque il centrosinistra aleggia e che comunque ha visto giusto ieri partecipare tanti esponenti moderati per le nostre primarie e tanti elettori cosiddetti moderati, perché poi la categoria è un po' scivolosa secondo me, partecipare insieme a noi. Il partito... Addio, è partito Civati, così all'improvviso. Vabbè. Non lo sentiamo più, comunque eravamo alla fine dell'intervista sicuramente, tra l'altro so che era, insomma, in giro con la figlia, per cui non stiamo neanche a rompergli troppo le scatole. Direi provate a risentire se lo troviamo, se ripeschiamo la linea, così finisce quello che stava dicendo, altrimenti riprendiamo all'800 24 00 24 con i vostri interventi, a cominciare da Luigi da Milano. Adesso vedo che dalla regia stanno provando a chiamare, vediamo se un attimo solo se abbiamo ancora Scivati. Luigi, scusi un secondo, perché gli dobbiamo la fine di questa risposta. Occhetto Bersani, Scivati? Eccolo. Eccomi qui, scusate, mi è caduta la linea. Succede, no, nessun problema. Allora, giusto la fine della risposta sulla differenza, insomma, questi 20 anni di Ulivo, la differenza tra Occhetto e Bersani, ovvero sia come motivare quegli elettori che temono la riedizione del PD, PDS, DS e di solo troppa sinistra. Le dicevo, io penso che questi anni non siano passati in vano, ci sono stati momenti difficili, di sconfitta, però c'è anche una tradizione di centrosinistra che ha avuto un'evoluzione molto forte rispetto al PC, PDS, secondo me, anzi se non fosse così farei fatica, come dire, anch'io ad appellarmi a questi elettori. Dovremmo essere capaci di trasferire soprattutto una caratteristica della nostra proposta politica, che è quella di saper governare e rassicurare soprattutto chi rischia, che sono due categorie diverse tra loro ma avvicinate dalla crisi, più deboli, e invece chi cerca di fare impresa, chi scommette sulla propria qualità, sul proprio talento. A queste due categorie dobbiamo rivolgerci, e insomma Bersani tra l'altro è stato uomo di governo per tanti anni con esiti positivi, devo dire, insomma è considerato una delle figure più capaci in questo senso. Il resto della lista e i messaggi che riusciremo a dare nelle prossime settimane saranno decisivi. Va bene, grazie allora e anche auguri naturalmente. Buona serata Pippo Scivati. Tanti auguri, buon anno. Grazie, a presto, buona serata. 800 24 00 24. Abbiamo come anticipato Luigi da Milano, buonasera. Buonasera dottore e complimenti per la pacatezza e il garbo con cui conduce la trasmissione, ciò non significa che lei sia meno incisivo del conduttore titolare. Grazie di questo endorsement. Luigi, prego. Il mio intervento è sull'affermazione del Cavaliere Berlusconi quando accusa il professor Monti di aver aumentato le tasse e conseguentemente anche l'aumento del debito pubblico. Per quanto riguarda le tasse è una constatazione oggettiva. L'aumento del debito pubblico però è funzione di diversi fattori. Nel corso dell'anno in cui il professor Monti ha gestito un po' il nostro governo, ha dovuto puntare per un impegno preso precedentemente in ambito della Comunità Europea a raggiungere il pareggio di bilancio, e gli altri due interventi che ha operato è stato quello della spending review e di uscite straordinarie. Io a memoria conto solo l'intervento in favore dei terremotati dell'Emilia e nient'altro. Nessun giornale economico però ha potuto, perlomeno per quelli che ho avuto modo di leggere, smentire l'affermazione del Cavaliere Berlusconi nei confronti dell'aumento del debito pubblico. Questo è aumentato per causa naturale, i BOT al 3% i BOT annuali nell'arco del 2011, ad inizio del 2012 i BTP intorno al 7%, queste sono le cause, questa è un'eredità che Monti ha trovato. Sì, guardi, il debito viene citato, in effetti il debito sta continuando ad aumentare, quello che noi possiamo sperare di fare è che aumenti meno che nel passato, cioè che il deficit si riduca, cioè il flusso di cassa in uscita per il fabbisogno, insomma, delle spese dello Stato, che il governo italiano, lo Stato italiano impari ad essere più in equilibrio tra entrate e uscite, il che poi si tradurrà prima o poi in una diminuzione del debito, cosa che è raramente avvenuta però negli ultimi anni, perché il debito, se andate a guardare per vari motivi, è sempre aumentato. Luigi, grazie. Andiamo a Filippo da Novara, buonasera. Buonasera. Stavo ascoltando la radio, il discorso, e ho sentito una telefonata di un radiospettatore prima dell'interruzione pubblicitaria del TG, e io ero d'accordo con lui, il punto di vista è catastrofico, nel senso, io penso che siamo in un punto di non ritorno, in un paese dove oggi l'ultima speranza è un comico, per quanto possa avere delle buone aspettative. Chi? Quale? Perché ce ne sono... ce ne sono parecchi, no? La battuta è perché oggi Berlusconi ha detto di Grillo, che fa sempre le solite battute scritte, le ripete, insomma, sembrava quasi che fosse, si ritenesse migliore anche come comico. Sì, prego. Con queste parole che sta dicendo, che tra tutti questi politici che abbiamo si combattono tra battute, ma di concreto cosa ci danno? Non dicono niente. No, beh, io ho detto così, però non è così. Cioè, Monti non c'entra nulla, ha uno stile completamente diverso. Se uno cerca la sobrietà, la può trovare tranquillamente in Monti, in parte anche in Bersani. Se uno cerca una personalità esuberante, la trova sicuramente in Berlusconi. Ma questo sì. Però vede, io quello che dico è questo, adesso ci appoggiamo, diciamo che Berlusconi fa delle promesse e non le mantiene, oppure che dal 94 che promette sempre le stesse cose, prima con l'ICI e adesso con l'IMU, che è stata messa. Monti ha fatto tante cose, almeno così dicono, per adesso vediamo soltanto degli effetti negativi, poi potranno dire che miglioreranno, però vediamo che i soldi per il Monte Paschi li hanno trovati, i soldi per il tempo per l'IMU l'hanno trovata. Mi dica lei, che magari è più dotto e più esperto di me, hanno trovato il tempo per ridurre qualche loro benefit? Neanche Monti è riuscito a farlo. Un presidente delle Ma scusi Filippo, allora alle prossime elezioni deve andare a votare Beppe Grillo, perché se questi sono i criteri che le stanno a cuore, ha una possibilità. Questi si sono autoridotti lo stipendio ovunque sono andati, e sicuramente sono nemici dell'alta finanza, per quello che dice Grillo. Poi si tratterà di stare a vedere, gli dia una possibilità. Se questo è il suo criterio, non butti tutto a monte, non è tutto disastroso come diceva lei, perché quando ci saranno le elezioni io farò annullare la mia chiesa, perché va bene. Grazie Filippo, che dire, abbiamo capito, buona serata. 800 24 0024 Roberto da Roma, buonasera. Sono Roberto. Sì. Sono Roberto da Roma. E fin qua ci siamo. Ecco, sì, intanto grazie per la sua trasmissione, perché lei fa parlare i cittadini, invece Parenzo e Crociani parlano loro. L'intervento mio era rivolto a Francesco Storace. Francesco Storace è stato presidente della nostra regione per 5 anni, dal 2000 al 2005. In questi 5 anni si sono verificati fatti gravissimi alla Regione Lazio, lo scandalo di Lady ASL. Lo scandalo di Lady ASL furono incriminati un direttore generale di nome Speziale, il vicepresidente della Regione Lazio si chiamava Giorgio Simeoni, il segretario di Giorgio Simeoni si chiamava Mario Luciano, avvocato. Attualmente la Polverini non ha fatto altro che richiamare alcuni personaggi e gli ha dato le direzioni generali di ASL. Uno di questi è nella ASL RMA, di nome Camillo Riccioni. Camillo Riccioni è il cognato di Crea Luciano. Vabbè, ma lei non ci avrà chiamato per fare tutto questo ramo di parentela, questo albero genealogico di... No. Viene a raccontare. Veniamo un po' al sunto, Roberto. Allora, il sunto era questo: ci fu uno scandalo grossissimo alla Regione Lazio, che era fatto dal suo vicepresidente, che era Giorgio Simeone, che attualmente è in Forza Italia, era Forza Italia e fu salvato con il PDL. Vabbè, lei non voterà, lei sta a Roma, non voterà Storace, perché ripropone persone che secondo lei sono coinvolte in questioni. Attualmente ci sono persone che sono impenagate nello scandalo di Lady Asli, per cui Angela Camusso scrisse degli articoli sull'Unità. Va bene, Roberto, grazie. Abbiamo capito intanto questo passaggio per quanto riguarda Roma. Adesso salutiamo Carlo Rienzi, buonasera, presidente del Codacons. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Codacons, che qualche giorno fa ha annunciato un ricorso al TAR contro la candidatura dei magistrati a queste elezioni. Innanzitutto sulla cosa specifica di Ingroia, ma poi dicevate, Rienzi, anche per gli altri magistrati, che insomma io ne ricordo 4. Ingroia per la sinistra, addirittura il candidato presidente, non mi ricordo neanche come si chiama per ora la formazione politica, è nuovissima, Piero Grasso per il PD, poi c'è D'Ambruoso che si sta impegnando in Italia Futura, quindi in Agenda Monti, e poi credo che ci sia anche Simonetta Matone del PDL. Esatto, sì. Come mai un ricorso su questo aspetto? Un ricorso già è una cosa strana per una roba del genere. No, non è strano, non è la prima volta, noi l'abbiamo fatto anche in occasione della presentazione dei Magistris e lo faremo sempre, perché abbiamo anche mandato una diffida al Consiglio Superiore della Magistratura dicendo che le nostre leggi vanno interpretate correttamente e anche la Costituzione, Noi non crediamo che si possa fare questa navetta avanti e indietro dalla magistratura alla politica, e le cose che ci sostengono in questo sono tante. Adesso non so, vogliamo parlare di Ingroia, ma non è che solo Ingroia è il problema, se vogliamo parliamo di lui, che è la cosa più attuale. Non è corretto che un magistrato, e l'ha detto anche la Corte Costituzionale, sì, che deve essere, avere sempre un'immagine di assoluta indipendenza e terzietà, che cosa fa? Fa un'indagine, adesso prendiamo questa ultima sul Napolitano, con le intercettazioni di Napolitano, fa delle attività che la Corte Costituzionale ha definito illegittime, perché poi nel conflitto di attribuzione ha ordinato la distruzione di queste intercettazioni, acquisisce un enorme consenso di tutta un'area sociale, no? Sulla sua azione, va nelle piazze, sostiene di avere ragione, che non ha, perché poi la Corte gli dà torto, e poi passa in politica, e quindi già questo si capisce che o l'ha fatta apposta a fare questa azione sballata per avere questo consenso e quindi a strumentalizzare il suo ruolo, oppure l'ha fatta, non sapeva che era sballata, ma comunque l'ha utilizzata prima di uscire dalla magistratura per acquisire questo consenso. Il caso di Pietro Grasso è un po' diverso, perché ha dato le dimissioni, secondo lei, o no? Dunque, il dare le dimissioni crea una situazione di minor danno, perché quello che poi è totalmente assurdo è che io vado in politica e dopo 4 anni di servizio per un privato, che è un partito, no? Il partito è un soggetto privato, quindi dopo aver lavorato per un privato, per un'impostazione politica ben precisa e partitica ben precisa, poi me ne torno a fare l'imparziale, sia pure in una regione diversa o in un territorio vicinore a quello dove stavo prima, a fare l'imparziale, a giudicare quelle persone che come politico ho incontrato. Vabbè, questo è esatto, abbiamo detto che sì. Questa, quindi è qualcosa di... Però il principio è sbagliato per tutti, perché facciamo un esempio assurdo che non vale né per Grasso né per Ingroia, non vorrei che si pensasse. Io sono un delinquentuccio, un magistrato un po' cattivo, e sto facendo indagine dell'antimafia. Io indago e ho tutti gli indirizzi, i nuovi telefoni, tutti i mafiosi, le famiglie mafiose, tutti i loro fatti, eccetera, eccetera. Che cosa faccio? A un certo punto mi ritiro dalla magistratura e mi presento anche in quella regione, perché se mi presento alle elezioni nazionali posso presentare anche in quella regione, e potrei teoricamente andare da tutte le famiglie mafiose e dire ragazzi, che vogliamo fare? Qua io so tutti i fatti vostri, forse la manina ma la potete dare per essere eletto. Ma è un esempio assurdo, ma per far capire, la Corte Costituzionale nel 2009 ha ritenuto legittima la legge che esiste, che è del 2006, che vieta l'iscrizione e la partecipazione attiva dei magistrati ai partiti politici, non solo, ma anche ad organizzazioni finanziarie, per esempio banche finanziarie, eccetera, sì, dicendo proprio questo. La Corte ha detto non si può consentire che io mi creo una rete. E però allora perché invece siamo sempre punto da capo? Siamo sempre punti da capo perché poi, siccome sono tutti una famiglia i magistrati, quelli del Consiglio Superiore, con un paio di astensioni per salvarsi la coscienza, dicono è un atto dovuto. Allora noi adesso andiamo al TAR e diremo e chiederemo che il TAR esamini se quest'atto era veramente dovuto. Veramente dovuto oppure no. Vabbè, questo poi staremo a vedere. Insomma, la questione l'avete sollevata insieme anche ad altri, a pareri magari più politici, però insomma. Senta Rienzi, però visto che siamo adesso anche alla fine dell'anno, io le devo chiedere anche, voi qualche giorno fa avete detto i consumi, è stato il Natale peggiore da 10 anni a questa parte, non ce l'ha una buona notizia per questo 2013 per congedarci così un pochino più leggeri o no? No, no, non ho una buona notizia, mi dispiace, è il 31, non vi posso dare nessuna buona notizia, perché credo che andiamo in un periodo di caos politico, non che a me piaccia Monti, anzi noi abbiamo detto che meglio che Monti si tolga dalla circolazione, ma andiamo in un periodo di caos politico che è dovuto alla totale frantumazione delle forze politiche che sono in campo e che verranno in campo. Tutte si richiameranno alla società civile, e questo mi fa rabbia, perché è falso, perché l'oro della società civile, tutte, destra, centro, sinistra, eccetera, Montezemolo, che non ne parliamo, che ha fatto per anni, ancora ha prorogato il contratto con i produttori del tabacco che producono morte, cioè, sono tutti della società civile adesso, ma questi lo sanno che cos'è la società civile? La società civile sono le persone e i loro bisogni, di questo non se ne sono mai fregati. Noi abbiamo dovuto fare un'indagine con 88.000 pareri di cittadini semplici, che è sul nostro sito, e si chiama l'Italia che voglio gli italiani, dove finalmente gli italiani hanno detto quello che vorrebbero dalla politica e dall'Italia, ma questi non hanno mai consultato gli italiani, fanno quello che vogliono e si richiamano poi, questo mi parla, alla società civile, quindi non andiamo verso un buon periodo, probabilmente dovremo fare almeno due elezioni politiche nel 2013, pensate in che situazione ci troveremo alla fine, cioè, del 2013. Lei immagina già una seconda elezione, perché con questa frammentazione, certo, con questa legge elettorale, però di questo passo potremmo andare avanti per n elezioni finché non si cambierà la legge elettorale, su questo sono perfettamente d'accordo con lei. Va bene, grazie, fermiamoci qua, auguri anche a lei, buona serata Carlo Rienzi, buon anno, speriamo bene. Allora, titoli del TG1. Andrea Calevo è libero, blitz di polizia e carabinieri in un covo vicino casa, presi i rapitori traditi da una pizza, le immagini dell'irruzione. Tra poco, subito dopo il telegiornale, il discorso del capo dello Stato, crisi, ruolo dell'Italia in Europa e elezioni fra i temi che affronterà Napolitano. Monti presenta su internet il suo programma, saremo un movimento civico, non un partito di centro moderato, noi contro populismi di destra e sinistra. Intervista al TG1 del segretario del PD dopo le primarie per la scelta dei candidati per Bersani, e questo è il vero rinnovamento della politica. Berlusconi attacca Monti e annuncia commissione d'inchiesta, chiarirà anche il ruolo del Quirinale, sostegno a Storace nella corsa alla Regione Lazio. Ciao professoressa, il saluto della gente a Rita Levi Montalcini, l'omaggio delle alte cariche dello Stato mercoledì a Torino ai funerali. Vota il campione dell'anno, il sondaggio lanciato sul sito del TG1 ha premiato Alex Zanardi, plurimedagliato alle Paraolimpiadi di Londra. In attesa di festeggiare l'arrivo del 2013, un giro del mondo tra danze e fuochi d'artificio dove il nuovo anno è già arrivato. Tutto pronto nelle case per il cenone e nelle piazze per i concerti in attesa della mezzanotte. La Zanzara. Adesso sentiamo anche i titoli della 7 e poi dopo riprendiamo all'800 24 0024 con i vostri interventi. La 7. Su internet, in 7 punti, Monti detta il suo manifesto per cambiare l'Italia con riforme radicali, e via Twitter delinea il carattere del suo raggruppamento. Siamo un movimento civico popolare responsabile, non siamo di centro né moderati, e risponde a Bersani: quali alleanze? Risposta: con tutte le forze che condividono le nostre idee europeiste. Il segretario del PD nel frattempo esalta il rinnovamento espresso nelle primarie per i candidati, felice per i giovani e le donne che hanno vinto. Alle urne democratiche sono andati in milioni di cittadini, molte conferme tra i big del partito, da Fassina alla Pollastrini, a Boccia alla Finocchiaro, avanti anche alcuni renziani, sconfitto Gori. Ora si attende Bersani al varco dei nomi protetti da inserire nel listino. Berlusconi continua l'attacco, questa volta di Napolitano. La commissione d'inchiesta sulla nascita del governo Monti dovrà accertare anche il ruolo del capo dello Stato. Il Cavaliere cerca di rompere l'isolamento e appoggia Storace nel Lazio. Suo continua a trattare con la Lega per un accordo, anche se le dichiarazioni ufficiali rimarcano le distanze. Migliaia di cittadini e moltissimi giovani in coda fuori dal Senato per dare l'addio a Rita Levi Montalcini, la bara della scienziata, senatrice a vita ricoperta di rose rosse. Anche Napolitano rende omaggio al premio Nobel che oggi New York Times definisce così una rivoluzionaria nello studio del cervello umano. I funerali mercoledì a Torino con rito ebraico. Con un blitz le forze dell'ordine liberano il 31enne Andrea Calevo, l'imprenditore di Lerici, rapito 15 giorni fa. Fermano 3 sequestratori traditi da una telefonata per ordinare una pizza. Calevo, già a casa, racconta le 2 settimane rinchiuso in catene dentro una cantina senza finestre. Le indagini continuano, ci sarebbero altri complici. Chiesto e non pagato un riscatto da 8 milioni. E sono ultime frenetiche ore negli Stati Uniti per scongiurare il precipizio fiscale. Poco fa Barack Obama ha parlato alla nazione, un appello per fare pressione sui repubblicani, un'intesa è in vista ma non è ancora stata raggiunta, si va verso un aumento delle tasse ma solo per i super ricchi. 824 0024, andiamo a sentire Silvia che ci chiama da Parma. Buonasera Silvia. Buonasera, tanti auguri. Auguri anche a lei. Volevo dire una cosa, che sì, secondo me questi Ingroia, Grasse, D'Ambrosio, anche se D'Ambrosio mi piace molto, eccetera, eccetera, hanno creato, hanno fatto un autogol bestiale alla magistratura, perché in questi anni una parte politica ha sempre detto che la magistratura era invischiata, era di una precisa idea politica, che era contro la parte opposta. Per cui Berlusconi diceva che i magistrati erano di sinistra, andiamo per il semplice. Ecco, sì. Però io dico una cosa, io sono di destra, ma io sono della perché il 99% dei giudici della magistratura sia persone per bene, che non hanno bisogno di questa pubblicità negativa da parte di personaggi che vogliono assolutissimamente... Mi scusi, Silvia, dobbiamo distinguere però, perché se parliamo di Ingroia, e che è sempre sui giornali, che fa un sacco di interviste, che adesso è diventata addirittura capo di un partito, va bene. Però se parliamo di magistrati che scendono in politica, abbiamo anche Simonetta Mattone per il PDL, D'Ambrosio, che lei ha citato, adesso sosterrà Monti, quindi... No, io però... Sì, Mantovano, che è del PDL, quindi non c'entra nulla. Sia Mantovano... Sì. Mantovano credo che abbia dato le dimissioni dalla magistratura. No, è in aspettativa, gliel'abbiamo chiesto 2 giorni fa, quando è stato nostro ospite. Io non credo che torni in magistratura perché è una persona Comunque, a parte quello, voglio dire che questo comportamento qua comunque è totalmente... il fatto di esporsi così tanto per una determinata forza politica spinge l'altra parte a dire avevamo ragione. Non ho capito. Non ho capito. Me lo ripeto. Io l'ho invitata a fare una distinzione, però, così proviamo a fare un passo in avanti. Però io dico una cosa. Sì, la distinzione è questa. La distinzione è questa. Un conto è dire che ci sono dei magistrati che anche quando fanno i magistrati come Ingroia fanno continuamente dichiarazioni politiche. Un conto è dire che ci sono magistrati che si candidano in politica, perché questo secondo fenomeno avviene anche per persone che poi si candidano, magistrati che poi si candidano con il centrodestra. Quindi questo smentisce la tesi che dice lei. No, prima di tutto vorrei fare una proporzione tra quelli che sono candidati col centrodestra e quelli che sono candidati col centrosinistra. Ma io parlo degli ultimi tempi, comunque la signora Martone, la dottoressa Martone è a capo, credo, non mi ricordo bene se è del Tribunale dei Minori, per cui non ha questa rilevanza giudiziaria. Mantovano sono 24 anni che non lavora e non aveva mai sentito parlare, era un giudice presumo di provincia, come ce ne sono tanti bravissimi. Io dico semplicemente questo che mi fa specie, cioè anche partendo da Manuel Pulito poi avevamo una magistratura che, guarda caso, dopo un certo periodo di tempo si candidava e tutta candidata da una stessa parte, D'Ambrosio, Colombo, che adesso Casson, quello veneto, Colombo credo che sia adesso nel consiglio di amministrazione della RAI addirittura, per cui è gente che improvvisamente abbandonata la loro carriera giudiziaria, sono tutti candidati da una parte. Va bene, quindi grazie. Mani Pulite viene inficiata completamente. Sì. Sì. Grasso non c'entra nulla con Mani Pulite, però, per esempio, non c'entra proprio nulla. Comunque, grazie Silvia. Andiamo a Lucca, da dove ci chiama Eugenio. Buonasera. Buonasera. Senta, a proposito del nostro ex premier Berlusconi, io volevo fare questa considerazione che parte dal momento in cui la signora Veronica Lario, all'epoca ancora moglie di Silvio, disse attraverso una lettera a Repubblica che il marito aveva dei problemi, era, mi pare di ricordare, malato e che quindi le persone che gli stavano intorno l'avessero aiutato in un certo senso. Di lì poi si è visto cosa è accaduto, da Noemi e poi da tutti i balli burlesque, la nipote di Mubarak, eccetera. Ma i problemi poi non erano solo quelli di carattere etico, erano anche problemi di carattere giudiziario, finanziario e politico. E tutti gli avvocati che l'hanno difeso sempre, per conto mio, non hanno giocato la carta che poteva essere giocata considerando anche la personalità del cavaliere, perché in effetti ha dei tratti di infantilismo, di megalomania particolare. Lei faccia caso a quando faceva il cucù alla Merkel, le corna, oppure quando non si riesce a contenere ogni volta che c'è una platea internazionale. Sì, ma dov'è che vuole arrivare lei? Voleva arrivare al fatto, sì, che gli avvocati, Eugenio, invece di andare per le lunghe, potevano, ma non sto scherzando, dire che il cavaliere era affetto da una forma di, cioè, anche magari con una, come si dice, convalidata da una perizia, eccetera, che una semi-infermità mentale, ne sarebbe uscito pulito. Sì, vabbè. Ma perché, scusi, ma perché Berlusconi è stato sempre assolto in tutti i processi, prescritto, no, assolto, no, tranne no, una volta. No, a parte se si è fatto delle leggi per sì, non essere, vabbè, condannato, cioè. Però volevo dire, a prescindere da questo fatto giudiziario, alcune volte è stato condannato, altre non è stato condannato. Vabbè, la sua era una provocazione. Per prescrizione, sì, dei termini di legge, eccetera. Ma io, per sgombrare il campo da tutto questo, l'avvocato, non so come si chiamava il suo avvocato particolare. Sì, vabbè, Eugenio, abbiamo capito, avrebbe potuto chiedere infermità mentale. Non so bene di cosa stia parlando. Lei, comunque, se è una provocazione, se è una cosa per scherzare, è una cosa per scherzare, no, Eugenio? Lei ha fatta lunga, però era una battuta questa qua alla fine. Lui ne importava di molto, bastava che gli togliessero di mezzo tutti questi problemi. Va bene, grazie, buona serata, grazie Eugenio. Cosa abbiamo? Il traffico? Traffico e poi tra poco con un altro ospite, 800 24 00 24, anzi già che ci siamo la salutiamo, Miriam Cominelli, la più votata del PD in Lombardia. Buonasera Miriam. Buonasera. Eccoci qua, dicevamo, in compagnia di Miriam Cominelli, bresciana, 31enne, appena, come si dice, no, eletta, insomma, nominata, ecco. Votata, in modo tale da rientrare nelle liste dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni, con possibilità, credo, d'elezione, sicuramente, perché è stata la più votata in Lombardia. Quanti voti ha preso esattamente? Sono 6.413, se non mi sbaglio. Sì. Ha battuto anche l'ex ministro Pollastrini. Sì, me l'hanno detto, sì, sì. Un sacco, sì, di gente molto più importante di lei, importante, sì, diciamo. Importante, più conosciuta, diciamo. Sì, all'interno del contesto politico. Lei addirittura, che ho letto da qualche parte, si era preparata a un discorso di sconfitta. Sì, sì, sì. Cioè, non è molto ottimista di natura, oppure che cosa? No, beh, era un risultato insperato, poi comunque sì. Io e chi mi ha aiutato in questa campagna breve ma intensa, volevamo rimanere un po' con i piedi per terra. La mia candidatura è partita dal gruppo delle donne, ma è stata sostenuta tantissimo dai giovani, dai ragazzi. E quindi, insomma, siamo un po', non dico gli ultimi arrivati, ma quasi. Perciò affrontare i big del partito, come due parlamentari uscenti, eccetera eccetera, volevamo rimanere con i piedi per terra, perciò ci siamo preparati al peggio, che comunque sarebbe stato un buonissimo punto di partenza anche in ogni caso, insomma. Senta, lei ha citato poi in uno dei discorsi che ha fatto anche Berlinguer, il storico segretario del Partito Comunista Italiano, a proposito di un suo discorso sui giovani, no? E chi sono poi i suoi punti di riferimento, visto che proviamo a conoscere la persona più votata in queste parlamentari primarie del PD in Lombardia, i suoi, insomma, eroi del Pantheon, i punti di riferimento politici, culturali, ne ha? Allora, Berlinguer l'ho già citato, quindi rinnovo il suo posto nel mio Pantheon. Poi ad esempio una persona che è venuta a mancare adesso, Rita Levi-Montalcini, ha utilizzato anche una sua recitazione in questi ultimi giorni, beh, una persona con grande forza d'animo e da prendere da esempio. Sì. Poi soprattutto anche le persone con cui milito quotidianamente nel Partito Democratico sono i volontari, le persone con cui attacco i manifesti o lavoro alle feste del PD provinciale. Cioè lei sintetizza il volontario del Partito Democratico, quello che non ambisce a cariche o cose del genere, ma che si rimbocca le maniche, organizza le feste, mette sui volantini, eccetera. Sì, poi vabbè, nostro segretario, per Luigi Bersani, anche Massimo D'Alema, comunque le figure importanti della sinistra italiana. Sicuramente. D'Alema non è che sia... Sì, esatto. È un po' controversa, è un Pantheon che potrebbe già cominciare a far storcere. No, vabbè, d'altra sì, parte lei, lei fa parte del PD, quindi è naturale che guardi a quella storia lì. Senta, ma a parte il discorso del Pantheon, lei appunto è a 31 anni, è giovane, è una donna, è stata votata da molte donne, così sì. Insomma, per il lavoro che ha fatto, così apprendiamo dai giornali, è un ingegnere precario. Assomma tutta una serie di cose che la fanno sembrare così una specie di cartina di tornasole, un po' di alcune condizioni di cui si parla molto, l'impegno delle donne, il lavoro delle donne, i giovani, i precari. Lei ha studiato ingegneria, tra l'altro, quindi si dice sempre che i giovani dovrebbero studiare queste cose, poi non trovano mai lavoro. Si sente molto addosso questa allora, cosa? L'etichetta mi è stata affibbiata, quella di ingegnere precari, per definirmi usano, ho visto queste parole e io mi rendo conto di rappresentare queste categorie per la mia storia personale e non posso farci niente perché effettivamente è così. Poi ripeto, la mia candidatura è venuta fuori da un gruppo di donne che mi conoscono, che sanno come lavoro, eccetera, eccetera, e perciò sì, indubbiamente forse sono un po'... La rappresentazione del giovane italiano, non so, non vorrei dire qualcosa di troppo ambizioso, però comunque, o troppo retorico, insomma, però sì, troppo retorico, sì, però d'altra parte è così, non ho mentito sui miei dati di fatto personali. È così. Senta, visto che Monti dice sempre che lui fa tutto i sacrifici di oggi, sugli esodati, su chi deve andare in pensione, lo fa per i giovani, lei che fa parte un po' anche di questa categoria di persone che dovrebbero mordere il presente adesso, la convince un po' questo discorso o no? Che lo fa per i giovani, io credo che i sacrifici che lui chiede vanno fatti per il paese, indubbiamente. L'operato di Monti in quest'ultimo periodo ha aiutato un po' a ridare un'idea dell'Italia anche a livello europeo che è migliorata sicuramente. Se lo fa per il paese vuol dire che lo fa anche per noi. Io vorrei avere la possibilità come giovane di essere lì in prima persona e spero che queste primarie mi diano effettivamente la possibilità. Questa possibilità. Pare di sì, perché insomma essendo la più votata dovrebbe essere, però non sarà capolista perché non so quali sono i meccanismi. Chi sarà capolista del PD in Lombardia, lei lo sa già? Non so ancora, ancora, non abbiamo ancora avuto. Se lei potesse scegliere vicino di banco in Parlamento, chi... Io l'ho già scelto in realtà, anche se probabilmente sarà più per il Senato, credo. Io ho fatto comunque questa campagna affiancata a una figura importante della mia città, che è stato uno degli ultimi sindaci autorevoli del centro-sinistra, Paolo Corsini, che era il parlamentare uscente. Potendo scegliere, io scelgo benissimo Alfredo Bazzoli, che è l'altro che come me è stato uno dei più preferenziati a queste primarie, insomma. Chi, mi scusi? Alfredo Bazzoli è l'altro più preferenziato della mia città, insomma. Quindi diciamo. Andate voi due insieme, bresciani, per mano. Mi piacerebbe, insomma, affrontare questa cosa con Senta, lui. Ma lei istintivamente tra Grillo e Monti, chi preferisce? Oh, preferisco Bersani. tra i due. Questa era facile la risposta, però. Questa era facile, forse sì. No, Grillo, tutta la questione dell'antipolitica non... insomma, additare come la classe politica, come sono tutti uguali, sono tutti dei ladri, eccetera, eccetera, e poi dimostrare di non avere ben chiari metodi democratici di coinvolgimento delle persone non mi rappresentano. Quindi, sicuramente Grillo no. E Monti non è che mi rappresenti molto nemmeno lui, perciò io scelgo Bersani. Tranquilla per la sua strada. Comunque, insomma, la prossima legislatura probabilmente vedrà una qualche collaborazione tra voi e Monti, è possibile, questo è possibile. Ma io credo che ci siano delle cose da fare per il paese che facendo dei cambiamenti così radicali ed importanti, sì. Che come citando sempre Bersani, perché alla fine ci sarà necessario il coinvolgimento e l'ampliamento della discussione alle forze politiche che vogliono lavorare per il bene del paese. Penso che sia doveroso comunque impossibile da pensare un quadro differente, insomma. Senta, lei ha fatto qualche riferimento anche a Renzi, ha detto che pur non essendo renziana sono bersaniana, però riconosco anche che il mio successo è anche un po' merito di chi ha posto la questione generazionale. Le sta simpatico a lei personalmente, Renzi? Oddio, non l'ho mai conosciuto personalmente, sono stata all'intervento che ho fatto qua a Brescia, sì, quando è venuto a presentare, sono finita anche per sbaglio sul libretto di presentazione della sua candidatura perché mi hanno fotografato, e però devo dire che le tematiche che porta avanti indubbiamente sono, soprattutto quella del rinnovamento, diciamo, è molto sentita anche a livello delle altre componenti del partito. Personalmente, ripeto, non lo conosco, ha un modo di fare molto, molto giovane, se vogliamo, molto giovane, fresco e molto comunicativo, quello sì, posso dire questo. Comunque lei se lo sente vicino, se lo sente uno con cui condividere, insomma, uno della sua schiera, perché sa, qua comincia a sembrare che Renzi adesso non interviene più, non parla più. Se ne vanno alcuni parlamentari di area renziana verso l'agenda Monti. Boh. Oddio, è del mio partito per ora, finché non dice che se ne vuole andare lui, quindi per forza me lo sento vicino del Partito Democratico, quindi indubbiamente, e spero che continui a portare il suo contributo all'interno del partito, insomma. Va bene, grazie a Miriam Cominelli, auguri, grazie. Grazie, auguri di sia di buon anno e per questa avventura 20 e 27, e tra poco siamo già sintonizzati su Rai 1, è finito il telegiornale, tra poco comincerà a parlare il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il tradizionale discorso di fine anno, lo seguiremo, vediamo se ci sarà, ma sicuramente non ci saranno riferimenti all'attualità e a questa cosa di oggi e di ieri di Berlusconi che chiede una commissione d'indagine per come è nato il governo Monti, mettendo in mezzo anche il capo dello Stato che ha poi fatto di fatto la regia. La Zanzara. Allora, in attesa di sentire Napolitano, poi agli ascoltatori in linea all'800 24 00 24 dico di rimanere in attesa perché poi anche dopo andremo avanti per un pochino. Giovanni da Ferrara, buonasera. Pronto? Eccolo qua, prego. Buonasera. Volevo parlare un attimo delle dichiarazioni che ha fatto Berlusconi, che io trovo gravissime. Chiedere una commissione d'inchiesta per controllare quello che ha fatto Monti in questo anno e i problemi dello spread, mi sembra una condizione che... Mi sa che ci siamo, Giovanni, la devo interrompere. Il fine anno del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Eccolo qua, diretta su Rai 1, Reti Unificate, Napolitano. Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, questo recita il testo. Un augurio affettuoso a tutti voi, uomini e donne d'Italia, che vivete e operate in patria e all'estero, e in particolare a quanti servono da lontano la nazione, in suo nome anche rischiando la vita, come nelle missioni di pace in tormentate aree di crisi. Mi rivolgo a voi questa sera nello stesso spirito del mio primo messaggio di fine anno nel 2006 e di tutti quelli che l'hanno seguito. Cercherò cioè ancora una volta di interpretare ed esprimere sentimenti e valori condivisi, esigenze e bisogni che riflettono l'interesse generale del Paese, guardando sempre all'unità nazionale come bene primario da tutelare e consolidare. In questo spirito ho operato finora secondo il ruolo attribuito dalla Costituzione al Presidente della Repubblica. Anche e ancor più in questo momento, alla vigilia di importanti elezioni politiche, non verranno da me giudizi e orientamenti di parte e neppure programmi per il governo del Paese, per la soluzione dei suoi problemi, che spetta alle forze politiche e ai candidati prospettare agli elettori. Muoverò piuttosto dal bisogno che avverto di una considerazione più attenta e partecipe della realtà del Paese e di una visione di quel che vorremmo esso diventasse nei prossimi anni. Parlo innanzitutto di una realtà sociale duramente segnata dalle conseguenze della crisi con cui da 4 anni ci si confronta su scala mondiale in Europa e in particolar modo in Italia. Da noi la crisi generale ancora nel 2012 si è tradotta in crisi di aziende medie e grandi e talvolta dell'economia di un'intera regione come ho constatato da vicino in Sardegna, si è tradotta in cancellazione di piccole imprese e di posti di lavoro, in aumento della cassa integrazione e della disoccupazione, in ulteriore aggravamento della difficoltà a trovare lavoro per chi l'ha perduto e per i giovani che lo cercano. Per effetto di tutto ciò e per il peso delle imposte da pagare, per l'aumento del costo di beni primari e servizi essenziali, è aumentata l'incidenza della povertà tra le famiglie, ci dice l'Istituto Nazionale di Statistica, specie di quelle in cui convivono più generazioni. Complessivamente sono quasi 2 milioni i minori che vivono in famiglie relativamente povere, il 70% dei quali è residente al sud. Ricevo d'altronde lettere da persone che mi dicono dell'impossibilità di vivere con una pensione minima dell'INPS o del calvario della vana ricerca di un lavoro se ci si ritrova disoccupato a 40 anni. Ma al di là delle situazioni più pesanti e dei casi estremi, dobbiamo parlare non più di disagio sociale, ma come in altri momenti storici di una vera e propria questione sociale da porre al centro dell'attenzione e dell'azione pubblica. E prima ancora di indicare risposte, come tocca fare a quanti ne hanno la responsabilità, è una questione sociale e sono situazioni gravi di persone, di famiglie, che bisogna sentire nel profondo della nostra coscienza e di cui ci si deve fare e mostrare umanamente partecipi. La politica, soprattutto, non può affermare il suo ruolo se ne manca questo sentimento, questa capacità di condivisione umana e morale. Ciò non significa, naturalmente, ignorare le condizioni obiettive e i limiti in cui si può agire oggi in Italia e nel quadro europeo e mondiale per superare fenomeni che stanno corrodendo la coesione sociale. Scelte di governo dettate dalla necessità di ridurre il nostro massiccio debito pubblico obbligano i cittadini a sacrifici, per una parte di essi certamente pesanti, e inevitabilmente contribuiscono a provocare recessione. Ma nessuno può negare quella necessità. È toccato anche a me ribadirlo molte volte. Guai se non si fosse compiuto lo sforzo che abbiamo in tempi recenti più decisamente affrontato. Pagare gli interessi sul nostro debito pubblico ci costa attualmente, attenzione a questa cifra, più di 85 miliardi di euro all'anno. E se questo enorme costo potrà nel 2013 e nel 2014 non aumentare ma diminuire, e grazie alla volontà seria dimostrata di portare in pareggio il rapporto tra entrate e spese dello Stato e di abbattere decisamente l'indebitamento. C'è stato cioè un ritorno di fiducia nell'Italia, hanno avuto successo le nuove emissioni di buoni del Tesoro, si è ridotto il famoso spread che da qualche anno è entrato nelle nostre preoccupazioni quotidiane. È dunque entro questi limiti che si può agire per affrontare le situazioni sociali più gravi. Lo si può e lo si deve fare distribuendo meglio, subito, i pesi dello sforzo di risanamento indispensabile, definendo in modo meno indiscriminato e automatico sia gli inasprimenti fiscali sia i tagli alla spesa pubblica, che va in ogni settore con rigore liberata da sprechi e razionalizzata. Decisivo è, nello stesso tempo e più in prospettiva, far ripartire l'economia e l'occupazione, non solo nel centro-nord, ma anche nel mezzogiorno, cosa quest'ultima di cui poco ci si fa carico e perfino poco si parla nei confronti e negli impegni per il governo del Paese. Uscire dalla recessione, rilanciare l'economia è possibile per noi solo insieme con l'Europa, portando in sede europea una più forte spinta e credibili proposte per una maggiore integrazione, corresponsabilità e solidarietà nel portare avanti politiche capaci di promuovere realmente su basi sostenibili, sviluppo, lavoro, giustizia sociale. L'Italia non è un paese che possa fare nel concerto europeo da passivo esecutore. È tra i paesi che hanno fondato e costruito l'Europa unita e ha titoli e responsabilità per essere protagonista di un futuro di integrazione e democrazia federale, che è condizione per contare ancora tutti insieme nel mondo che è cambiato e che cambia. Guardiamo dunque a questa prospettiva. Sta per iniziare un anno ancora carico di difficoltà. Non ci nascondiamo la durezza delle prove da affrontare, ma abbiamo forti ragioni di fiducia negli italiani e nell'Italia. Più di un anno fa dissi a Rimini: si è nel passato parlato troppo poco il linguaggio della verità, ma avere e dare fiducia non significa alimentare illusioni, minimizzare o sdrammatizzare i dati più critici della realtà. Si recupera fiducia guardandovi con intelligenza e con coraggio, il coraggio della speranza, della volontà e dell'impegno. Ebbene, penso che una maturazione in questo senso ci sia stata, specialmente tra i giovani. Sono loro che hanno più motivi per essere aspramente polemici nel prendere atto realisticamente di pesanti errori e ritardi, scelte sbagliate e riforme mancate, fino all'insorgere di quel groviglio ed intreccio di nodi irrisolti che pesa sull'avvenire delle giovani generazioni. I giovani hanno dunque ragioni da vendere nei confronti dei partiti e dei governi per vicende degli ultimi decenni, anche se da un lato sarebbe consigliabile non fare di tutte le erbe un fascio e se dall'altro si dovrebbero chiamare in causa responsabilità delle classi dirigenti nel loro complesso e non solo dei soggetti politici. E che dire poi dell'indignazione che suscitano la corruzione in tante sfere della vita pubblica e della società, una perfino spudorata evasione fiscale o il persistere di privilegi e di abusi nella gestione di ruoli pubblici ed incarichi politici, cui solo di recente si sta ponendo freno anche attraverso controlli sull'esercizio delle autonomie regionali e locali. Importante è che soprattutto tra i giovani si manifesti, insieme con la polemica e l'indignazione, la voglia di reagire, la volontà di partecipare a un moto di cambiamento e di aprirsi delle strade. Perché in fondo quel che si chiede è che si offrano ai giovani delle opportunità, ponendo fine alla vecchia pratica delle promesse o delle offerte per canali personalistici e clientelari. E opportunità bisogna offrire a quanti hanno consapevolezza e voglia di camminare con le loro gambe. Bisogna offrirle soprattutto attraverso politiche pubbliche di istruzione e formazione rispondenti alle tendenze e alle esigenze di un più avanzato sviluppo economico e civile. Prospettare una visione per il futuro delle giovani generazioni e del Paese è importante fin da ora, senza limitarsi ad attendere che nella seconda metà del 2013 inizi una ripresa della crescita in Italia e adoperandosi perché si concretizzi e si robustisca. Ritengo si debba puntare a una visione innanzitutto unitaria che abbracci l'intero Paese, contando sulla capacità di tutte le forze valide del Mezzogiorno di liberarsi dalla tendenza all'assistenzialismo, dai particolarismi e dall'inefficienza di cui è rimasta assurdamente vittima la gestione dei fondi europei. Più in generale, una rinnovata visione dello sviluppo economico non può eludere il problema del crescere delle diseguaglianze sociali. Si riconosce ormai, ben oltre vecchi confini ideologici, che esso è divenuto fattore di crisi e ostacolo alla crescita proprio nelle economie avanzate. Porre in primo piano quel problema diventa sempre più decisivo. Nello stesso tempo, in momenti impegnativi di scelta come quello della imminente competizione elettorale, è giusto guardare all'Italia che vorremmo nella pienezza dei suoi valori civili e culturali e quindi come paese solidale che sappia aver cura dei soggetti più deboli, garantendoli dal timore della malattia e dell'isolamento, che sappia accogliere chi arriva in Italia per cercare protezione da profugo o lavoro da immigrato e offrendo l'apporto di nuove risorse umane per il nostro sviluppo. Paese quindi l'Italia da far crescere aperto e inclusivo. Già un anno fa avevamo 420.000 minori extracomunitari nati in Italia. È concepibile che dopo essere cresciuti ed essersi formati qui restino stranieri in Italia? È concepibile che profughi cui è stato riconosciuto l'asilo vengano abbandonati nelle condizioni che un grande giornale internazionale ha giorni fa, amaramente per noi, documentato e denunciato? Ripresa e rilancio dell'economia e avanzamento civile del Paese non possono separarsi. Abbiamo norme e forze dello Stato seriamente dedicate alla lotta contro la criminalità organizzata, piaga gravissima non solo nel Mezzogiorno, ma occorre portare a fondo questo impegno facendo leva sull'apporto vigoroso di energie della società civile per spazzare via ogni connivenza e passività. Stiamo facendo, si deve dirlo, passi avanti nel campo dei rapporti e dei diritti civili, così con la legge che ha sancito l'equiparazione tra i figli nati all'interno e al di fuori del matrimonio e ha segnalato esigenze di ulteriore adeguamento del diritto di famiglia. O con le nuove normative di questi anni per contrastare persecuzioni e violenze contro le donne. Ho appena firmato la legge di ratifica della Convenzione internazionale rivolta anche a combattere la violenza domestica, ma è impressionante e richiede ancora ben altro lo stillicidio di barbare uccisioni di donne nel nostro Paese. Più che mai dato persistente di inciviltà da sradicare in Italia, rimane la realtà angosciosa delle carceri, essendo persino mancata l'adozione finale di una legge che avrebbe potuto almeno alleviarla. Saluto tuttavia con compiacimento il fatto che per l'iniziativa della Commissione parlamentare istituita in Senato si stia procedendo alla chiusura, cominciando dalla Sicilia, degli ospedali psichiatrici giudiziari, autentico orrore indegno di un paese appena civile. Ponte decisivo tra sviluppo economico e avanzamento civile è la valorizzazione in tutti i suoi aspetti, a partire dal patrimonio naturale ed artistico, della risorsa cultura di cui è singolarmente ricca l'Italia. È stato un tema su cui mi sono costantemente speso in questi anni. Apprezzo i buoni propositi che ora si manifestano a questo riguardo, ma non dimentico le sordità e le difficoltà in cui mi sono imbattuto in questi anni a tutti i livelli. C'è qui un punto non secondario della riflessione e del cambiamento da portare avanti. Vorrei tornare, ma non ne ho il tempo e quindi li richiamo solo per memoria anche su altri motivi di mio costante impegno durante il settennato. La sicurezza sui luoghi di lavoro, come parte di una strategia di valorizzazione del lavoro che è condizione anche per il successo di intese volte a elevare la produttività e competitività del nostro sistema economico. O il ruolo del capitale umano di cui disponiamo e le sue potenzialità, su cui ho insistito guardando soprattutto a risorse scarsamente impiegate o non messe in condizione di esprimersi pienamente. E ancora una volta cito l'esempio di ricercatori, in particolare donne di giovane età, che hanno dato di recente prove straordinarie in centri di ricerca europei come il CERN di Ginevra o l'ESTEC dell'AIA, o con scarsi mezzi e molte difficoltà burocratiche in istituti di ricerca nazionali. E qui non posso non rivolgere un pensiero commosso e riconoscente alla grande figura di Rita Levi-Montalcini, che tanto ha rappresentato per la causa della scienza, dell'affermazione delle donne, della libertà e della democrazia. In conclusione, mi auguro che molte questioni da me toccate e soprattutto il senso di un'attenzione consapevole e non formale alle realtà e alle attese sociali e civili del Paese trovino posto nella competizione elettorale. Mi attendo che ci sia senso del limite e della misura nei confronti e nelle polemiche, evitando contrapposizioni distruttive e reciproche invettive. In special modo su tematiche cruciali ancora eluse in questa legislatura, riforme dell'ordinamento costituzionale, riforma della giustizia, non si può dimenticare che saranno necessari nel nuovo Parlamento sforzi convergenti, contributi responsabili alla ricerca di intese, come in tutti i paesi democratici quando si tratti di ridefinire regole e assetti istituzionali. Non si è, con mio grave rammarico, saputo o voluto riformare la legge elettorale. Per i partiti, per tutte le formazioni politiche, la prova d'appello è ora quella della qualità delle liste. Sono certo che gli elettori ne terranno il massimo conto. Al loro giudizio si presenteranno anche nuove offerte di liste e raggruppamenti che si vanno definendo. L'afflusso attraverso tutti i canali preesistenti e nuovi di energie finora non rivoltesi all'impegno politico può risultare vitale per rinnovare e arricchire la nostra democrazia, dare prestigio e incisività alla rappresentanza parlamentare. Il voto del 24-25 febbraio interverrà a indicare quali posizioni siano maggiormente condivise e debbano guidare il governo che si formerà e otterrà la fiducia delle Camere. Il senatore Monti ha compiuto una libera scelta di iniziativa programmatica e di impegno politico. Egli non poteva candidarsi al Parlamento facendone già parte come senatore a vita. Poteva e l'ha fatto, non è il primo caso nella nostra storia recente, patrocinare, dopo aver presieduto un governo tecnico, una nuova entità politico-elettorale che prenderà parte alla competizione al pari degli altri schieramenti. D'altronde non c'è nel nostro ordinamento costituzionale l'elezione diretta del primo ministro, del capo del governo. Il Presidente del Consiglio dimissionario è tenuto, secondo una prassi consolidata, ad assicurare entro limiti ben definiti la gestione degli affari correnti e ad attuare leggi e deleghe già approvate dal Parlamento nel solco delle scelte sancite con la fiducia dalle diverse forze politiche che sostenevano il suo governo. Il Ministro dell'Interno garantirà con assoluta imparzialità il corretto svolgimento del procedimento elettorale. Le elezioni parlamentari sono per eccellenza il momento della politica. Un grande intellettuale e studioso italiano del Novecento, Benedetto Croce, disse all'indomani della caduta del fascismo: «Senza politica nessun proposito, per nobile che sia, giunge alla sua pratica attuazione». E ancor prima aveva scritto: guardando all'ormai vicina rinascita della democrazia, i partiti politici in avvenire si combatteranno a viso scoperto e lealmente e nel bene dell'Italia troveranno di volta in volta il limite oltre il quale non deve spingersi la loro discordia. L'insegnamento è anche oggi ben chiaro. Il rifiuto o il disprezzo della politica non porta da nessuna parte. È pura negatività e sterilità. La politica non deve però ridursi a conflitto cieco o mera contesa per il potere, senza rispetto per il bene comune e senza qualità morale. Con queste parole mi congedo da voi. Ho per ormai quasi 7 anni assolto il mio compito, credo di poterlo dire, con scrupolo, dedizione e rigore. Ringrazio dal profondo del cuore tutte le italiane e gli italiani di ogni generazione, di ogni regione, e di ogni tendenza politica che mi hanno fatto sentire il loro affetto e il loro sostegno. A voi tutti, buon 2013. Eccoci qua, allora, chi ha resistito sin qua al discorso di Napolitano, che insomma già visto in televisione, forse il video aiuta, ma ascoltato così, evidentemente un discorso istituzionale, che dire, da sottolineare sicuramente il passaggio nel quale ha rassicurato, forse anche rispondendo in qualche modo a quanti, soprattutto nel centrodestra, hanno criticato l'operazione della candidatura di Monti, ha detto Monti può tranquillamente dare vita, patrocinare ad una nuova entità politica. Del resto ha detto in Italia non c'è l'elezione diretta del capo del governo, quindi lui può tranquillamente rimanere senatore a vita, questo si legge tra le righe, e patrocinare a questa nuova entità politica che va nascendo. Le altre cose le avete sentite, io darei spazio ancora per qualche minuto, per quel che resta, agli ascoltatori che sono, non hanno avuto la pazienza di rimanere fin qua. In linea Dino da Biella, buonasera Dino. Forse adesso qualcuno si è dileguato. Claudio da Firenze, buonasera. Si è dileguato pure Claudio. Proviamo allora con Giorgio da Milano, vediamo se almeno Giorgio c'è. Sergio da Milano. Sergio, ci sente? Sì. Avrà posato il telefono a qualche parte perché stava parlando Monti, c'è inutile che sto qua ad ascoltare. Adesso però tocca a lei, Sergio. No, l'ho sentito, sì. L'ho sentito, devo dire che tra le cose nobili che ha detto c'è anche molta aria fritta. No? Sono almeno 40 anni che sento parlare di aiuti al mezzogiorno, sento parlare di riduzione della spesa pubblica, sento parlare di moralità dei nostri uomini politici, ma non è successo assolutamente niente. Ma io ero intervenuto per un'altra cosa, era questa, rispondendo alla domanda se Monti era di destra o di sinistra. Per me non è né di destra né di sinistra, è semplicemente un banchiere che è contiguo ai poteri economici forti. Adesso è Monti è diventato proprio un banchiere, cioè è partito come amico delle banche, adesso è finito proprio banchiere. Sì, più o meno, non è che cambia molto, essendo amico delle banche, non ha fatto molto per quanto riguarda i nostri problemi, ma ha fatto molto per quanto riguarda i problemi delle banche e anche delle nazioni europee, che l'hanno, soprattutto quelle più forti, che l'hanno un po' costretto a fare quello che ha fatto. E un'ultima cosa, poi la lascio augurandole buon anno, per quanto riguarda l'autorevolezza ritrovata dell'Italia, io ho qualche perplessità e se vuole le posso anche fare due esempi. Il Vada. Primo è quello dei nostri marò, che sono 11 mesi che sono prigionieri in India e nessuno ha pensato, perché le parole sono le parole, ma i fatti poi sono quelli che sono, no? Nessuno ha pensato a liberarli. Mi viene semplicemente in mente che se fossero stati due marine americani sarebbero passati 32 secondi e sarebbero stati su un aereo destinazione Stati Uniti. Questo però non c'entra molto con Monti, c'entra col fatto che noi non siamo l'America, insomma. C'entra con l'autorevolezza che ha l'Italia. Sì, ma che non aveva neanche prima con Berlusconi, non è che Berlusconi eravamo americani e c'erano i Marines. No, eh? Non mi metto assolutamente a fare paragoni, sto semplicemente dicendo un dato di fatto che è questo, no? Ecco, l'altra cosa che voleva dire, l'ultima? L'ultimissima cosa che voleva dire, il secondo esempio, è che dopo il terremoto nell'Emilia l'Italia ha chiesto aiuto agli stati europei e Inghilterra, mi sembra anche Irlanda, eccetera, si sono in qualche modo defilati. Ecco, questo non mi sembra proprio un esempio di grossa autorevolezza per quanto riguarda l'Italia, insomma. Era l'unica cosa, cioè era l'ultima cosa che volevo dire. Va bene, grazie. Allora Sergio, sentiamo un altro ascoltatore, Michele da Siracusa. Buonasera. Michele a Siracusa, ci sente? No, Michele da Alessandria, abbiamo una concentrazione di Michele. No, non ci sente neanche Michele da Alessandria, non ci sente nessuno a questo punto. Non abbiamo, non so, si sono interrotti i canali. Allora vado io di riepilogo di quello che ha detto Monti, di quello che ha detto Napolitano. Insomma, un discorso molto retorico. Si è rammaricato della mancata riforma della legge elettorale, ha detto adesso auspica che ci siano liste di qualità, piene di qualità, ha invitato anche in vista di questa campagna elettorale, come è normale che sia da parte del capo dello Stato, a mantenere il senso del limite della misura, a non creare cieche contrapposizioni, anche perché ha detto la prossima legislatura richiederà uno sforzo congiunto su alcune riforme. Questo così è l'auspicio di Napolitano, ha citato a proposito di questo la riforma della giustizia. Abbiamo qualche ascoltatore? No, o chiudiamo, che facciamo? Sì, allora Rossano da Venezia per chiudere questa sera, direi. Buonasera. Sì, buonasera. Preciso da Chioggia, provincia di Venezia, così ci tengo un pochino a questa non piana. Bruci i secondi che sono pochi per chiudere, sì, questa no, sera no, che abbiamo un giornale. Innanzitutto volevo dire questo qua, che vabbè, insomma, Monti è stata la medicina necessaria, quindi qualche ascoltatore prima ha detto non è né di destra né di sinistra, è stata semplicemente una medicina necessaria. Io volevo una tua impressione, una tua considerazione, se condividi che le ultime uscite, insomma, tutto questo movimento dell'ex premier e Silvio Berlusconi saranno il preludio a dei colpi di coda un po' sorprendenti, insomma. Ecco, così, insomma. Da parte di Berlusconi? Chiaro. Ma i colpi di coda li stiamo vedendo ogni volta che fa un'intervista e che attacca Monti e che prende le posizioni anche piuttosto nette. Questo sarà un po' il leitmotiv della campagna elettorale, resta da capire se farà presa sugli elettori. Però adesso dobbiamo davvero chiudere. Grazie Nadia Zammitti, Stefano Catone in redazione, Pietro La Corte regia, anche da me Alessio Maurizi l'augurio di una buona serata e un buon anno, eh. Poi ci risentiamo domani la zanzara delle feste dopo il giro delle 18. Buon anno. La zanzara.